Vuoi fare il riassunto? delle puntate precedenti. Allora, farò un riassunto molto breve. Una creatura di nome Adone, che però si è presentata come Riccardo. Riccardo, che poi si svelerà ad essere Adone, è caduta giù dal tetto della cattedrale, ha interagito con delle persone di nome Mif, Ora e Nibel. Nibel, grazie. E hanno aperto una palla che era in mano una spada e lì ha fatto fuori il cuore pulsante. Poi dal tetto è uscito un'altra persona di nome Pietro, che si è presentata come tale una volta, e da lì hanno cercato di fare cose. Adone, come al solito, ha giustamente una voce divina gli ha ricordato che aveva una spell che poteva parlare con le persone, ha parlato con quest'entità. Dopodiché, da proprio subito, ha fatto cose. Tempo è andato avanti di una settimana, tutti a posto, con un po' di barba, con un mago, che posto lui con un dito di metallo, quindi fra qualche giorno esplode. Andiamo in città. Mif e Lieto fanno delle cose socialmente utili, tipo cercare informazioni, interagire con le persone, trovare un contatto che ci può aiutare. Adone è andato a drogarsi assieme a Nivel e Ora. È riuscito a mettersi contro la mafia locale, sono tornati comunque abbastanza vittoriosi, dopo aver dato un limone per cui mi fa la limonata ai loro nemici. Torniamo alla cattedrale e da lì è arrivato comunque ora di fare le nanne, ignorando i casini che abbiamo causato all'esterno della chiesa, decidiamo di andare a letto con un Mip che vuole fare cose. Fine. Hai skippato giustamente le parti che non c'entrano con Adone. Due cose. Venite un po' più vicini al tablet, se potete. Posso tenerlo qua, se vuoi, però posso Ok. Sì. Ti si sente forte, l'unica cosa è che se lo tieni lontano è bassa la qualità. Se lo tieni vicino mi sembra che funzioni meglio. Ok. tenerlo Tecnicismi a parte. Noi abbiamo da fare una scena scriptata. Cioè, dopo gli eventi dell'ultima sessione è tardi, è sera tardi. Il vescovo vi propone di cenare lì. Non hanno a disposizione grandi robe raffinate, ma si usa una macchina per produrre il cibo, food maker, e quindi cenate con il cibo generato. Sapore blando, però nonostante sia la macchina, fa robe tipiche, che in questo posto vuol dire carne di pecora, capra, manzo, fave, ma non botto le fave, cioè le fave sono proprio l'alimento core di questo posto. Fortuna che non sei allergico ai Non sono piselli. allergico ai piselli, sono fave comunque, e formaggi. Ok, basta, questo è la cena che vi si prospetta. E dicevo che la scena è scriptata perché durante la cena il vescovo vi dice che cioè che la chiesa ha alcune stanze al piano di sopra, una è la sua, che è tipo uno studio dove c'è un letto, e poi ci sono due stanze che sarebbero dei magazzini. Non era al corrente dell'esistenza della stanza nascosta da cui sono venuti Adone e Lieto. Anzi, interessante questi aspetti architettonici. Però le due stanze magazzino le potrete mettere a posto un minuto e poi ci si può dormire. Con dei pagliericci più che un letto, con quello che trovate più che una vera camera fatta per bene, però è meglio di niente. E la camera più piccola decidete, questo è scriptato, di darla ad Adone e Mif. La camera più grande ci stanno gli altri, tipo ostello, la Onesto. dividete tipo ostello. Onesto. Dico questo perché durante la notte, come aveva annunciato, Mif vuole fare l'esperimento di manipolare i sogni di Adone e vedere cosa succede. Durante la notte io vorrei chiedervi cosa volete fare, cioè, dopo la cena, che, ripeto, è una roba che è successa, io la salterei. Avete parlato del più del meno, cioè conoscete meglio i personaggi, ma non è nel dettaglio, cioè vi hanno raccontato storie, avete fatto chit chat, non robe super profonde, non robe legate alle cose strane che sono successe di recente. Li conoscete un po' meglio. Sono social link aumentato, per dirla alla persona. Però vi vorrei chiedere a Os e a Ika cosa volete fare durante la notte, durante la sera. Al momento sono divisi, quindi sono già divisi nelle stanze. Se mi dici tutto quello che volete fare, va bene, cioè a partire dal dopo cena fino alla notte. Quindi inizia, cioè, a dirmi cosa vuoi fare quando siete ancora insieme, che la cena sta finendo, avete smesso di parlare, fin dopo. Ma però ci penso, vedo cosa vogliono fare gli altri. Ok, perfetto. Lieto ha qualche idea diversa? Dietro esce a fumare. Ok. Hai 14 anni, sei un bimbo. Lo No, dice ne dicevo Adone? che sei un bimbo. La prego, stiamo lavorando. Se non vuoi dire le cose in character, oh. No, scherzo, scherzo. L'unica persona. No, non è vero, anche Nibel. Sia Nibel che Ora fumano. Quindi loro sarebbero. Anche il vescovo, però. Vabbè. Tutti tranne noi due. Sì, in effetti facevo prima a dire così. Però che c'ha lo stimolo a fare sta cosa è sicuramente Ora, che ti segue, lieto. E quindi avete un momento in cui siete fuori dalla chiesa. Se volete andare fuori, perché comunque è un'epoca in cui non c'è questo crisma di dover fumare all'aperto, eccetera. È solo più, come dire, più piacevole magari fumare in un posto più carino, più tranquillo, come un vicolo invece che il centro di una chiesa. Però no, te Sì, io esco. vado fuori a fumare. Ok. Sì, molto meglio fuori. E la prima cosa che sentite tutti è il fatto che la temperatura è molto più fredda di quello che vi sareste aspettati e di quella che avete sentito nelle ultime sere. Ultime sere che vi ricordate, intendo. Io sono appena arrivato. Esatto, quindi vieni da un posto che era molto più a nord, eppure fa comunque più freddo qua. Boh, a parte questo. È un posto, cioè il vicolo notturno non è molto illuminato, c'è il vialone principale che ha le luci alchemiche, ma i vicoli secondari non hanno niente del genere, sono bui, completamente scuri, cioè molto scuri. Ok, ora ti chiede se ne hai anche per lei. Grazie, Si offre. no, con tutto Io quello. ho la pipa, c'è poco che posso offrire. La pipa. Questo sei un cavernicolo. Sì, diciamo di sì. Il mio Enough. lavoro mi ha portato a lavorare nelle grotte, diciamo, quindi Nelle grotte? non è tanto distante dalla verità. Che grotte? Gli faccio cenno qua, a parte che forse c'ho lo zaino dentro. Ho lavorato in delle miniere, ero un minatore. Esistono ancora? Sì, esistono ancora per metalli necessari come il ferro, il rame, che servono sempre anche con l'alchimia. Non possiamo estrarre con la magia, can't we? Suppongo di sì. Diciamo che avevamo a disposizione dei macchinari che utilizzavano la magia. Insomma, una Però questione di soldi, ho capito. una questione di soldi, ma anche in tempi moderni serve sempre un po' di manodopera, un po' di tocco umano. Sì, la servitù serve sempre. That's crazy. Chiamala come vuoi. Nel frattempo ho dato da mangiare a me e alla mia famiglia con quel lavoro. L'atmosfera è ghiacciata! Ora rimane in silenzio a fumare la sigaretta che le ha porto. Porso, po sì, no, l'ho detto bene la prima volta. Vabbè, Lieto. e tu cosa fai? Io lavoravo alla cattedrale di Tilia, a sud di Oclica, se vieni da lì hai presente. E Boh, ero sacerdotessa, non ero la capa della struttura e mi occupo principalmente di medicina. Avevo trovato delle malattie strane, quindi ero andata a fare delle domande al vescovo di Oclica 2 giorni prima che... Saltasse in aria, vero? Sì. Brutta storia. Sì. Ho sentito qualcosa dei miei compagni d'avventure. Non l'hai letto sui giornali? Non l'ho letto sui giornali, Ah! no. Ok! Cazzo, vinto, siamo andati, vabbè. Niente. No, no, parte del gruppo era presente quando il vescovo è saltato in aria. Ah! Quanti eravate nel gruppo? Per Ah, curiosità. no, io non c'ero, io ero da un'altra parte in quel momento, però li ho seguiti per un po'. E quanti erano? Sei? Sì. Achilles. Adore. No, no, da fuori dalla finestra. Vorrei menzionare il fatto che stiamo ignorando gli NPC. Sì, ma... Ok. No, Cioè, perché... Kiel è importante, però gli altri, cioè, sono o sono forti. Parliamo onestamente, tra Kayle e Gideon, chi ha avuto più impatto sulla storia? Quindi... Kiel mia moglie, Era per dire, era per cazzo! fare un nome a caso. Vabbè, ci sta, ci sta. Sì, sarei curiosa di sapere cosa è successo di preciso, però... Boh, immagino uscirà il discorso prima o poi. Sì, ecco il momento. Se non volete dire qualcosa o fare qualcosa in particolare, vi chiedo cosa volete fare dopo la pausa sigaretta. Allora, gli chiedo al lieto, tu hai l'abitudine di cadere dai soffitti o è una cosa nuova? Abitudine non la chiamerei, però ora che mi ci fai pensare, di recente succede più spesso del normale. Capisco. Da quando mi sono unito a... Unito. Quando ho iniziato a seguire le orme del gruppo. È sempre stata... Siamo sempre stati di corsa, mettiamola così. Quindi mi stai dicendo che dovrò stare attento in futuro? Sì. Molto probabilmente non stiamo andando in una buona direzione a questo punto. Hai mille visto Però tipo col dita di attenzione. metallo, no? Sì, ho visto. Però attenzione ad eventuali cadute dal primo piano o cose del genere. Diciamo che con la mia stazza temo di finire nelle fondamenta. Ci sta. Presto. Detto questo, è lieto si ritira, direi. Io È passata una bevo settimana, c'ho sonno. l'ultimo sorso di qualsiasi bevanda ci sia dentro la mia fiaschetta. E faccio sgocciolare le ultime gocce, la chiudo, la rimetto nella giacca e rientro dentro anch'io. Ok. Vi avevano spiegato qual è la strada, quindi semplicemente aprite la porticina, salite due lunghe rampe di scale, tipo 20 scalini ciascuna, e la porta della stanza dove dormirete voi tre, Sì. Ora, Nibel e Lieto, è aperta, mentre l'altra è chiusa. E ci sono tre, appunto, pagliericci disposti ai lati della stanza, in modo che ognuno ci abbia il suo angolo, diciamo. E ora entra per prima. Cioè, come dire? Passa prima di Lieto. E indicando quello vicino alla finestra del pagliericcio, dice: quello è mio! Oh, ok, c'è problema. E mette lì le sue cose. Tipo una sacca di pelle chiara, cioè di un marrone chiaro. E dalla sacca estrae tipo vestiti da notte, robe del genere, prodotti. E voi cosa volete fare? Prendete Io quello che devo... preferite. Io sono abituato a dormire anche per terra. No, io no, e questi sembrano abbastanza scomodi, quindi penso che mi lamenterò sufficientemente di queste accomodazioni. Vado a rompere il cazzo agli altri due, però. Dicono, dicono, volte quando è saltato in aria il prete. Tra un attimo. Ok, ok. Secondo me ha senso, invece. Bussi alla porta. Voi due siete prima degli eventi che sapete. E quello che è successo semplicemente è che state discutendo su come funziona sta roba qua. Cioè, Miff sta spiegando ad Adone come funziona sta roba e sentite bussare alla porta. Ok, credo che vado ad aprire Adone. Adone, vai. Sì? Qui. Ciao. Ah, ciao Lieto. Prego, dimmi, ti serve qualcosa? No, niente, volevo rompere il cazzo. Ciao. Fantastico. Miff letteralmente spunta come sto spuntando io dalla porta e fa: ok, puoi entrare? No, mi sembrate impegnati. Buonanotte. Lo siamo. Ma buonanotte. Ciao. Ciao. Richiudo e dico: è sempre così strano. Figlio di Danzan. Ah, chi? Te lo spiego dopo. E devo fare con la spiegazione. You did not met you. No. Eh già, già. Chi? La leggenda. Mi serve che Nibel e Lieto facciano un roll di... Non ti preoccupare. Non è un problema. Non ti preoccupare. Ho due a tutto. Personaggio no. Perfetto. Ho fatto uno. Davvero? Sì. Che storia. E... io direi percepire. Cioè, ero indeciso tra due, ma... è in mente. Sì. Ho fatto 5. Figa. Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so. Cioè, se vuoi vedere il mio storico di 10 che ho fatto... 4. Con... Sorry. È fuori di testa. Cioè, non ha senso. Okay. Solo tra l'altro. Porco due. Ok. Non arriverà il momento che devo rollare tipo per far danni. Numeri relativi. Ok. No, la formula è giusta, cioè non posso aver barato per No. è un 10 sul dado. Quello che succede è che voi vi mettete a letto. Dopo 40 minuti, mettiamola così, Nibel senti un suono che ti ricorda leggermente un fulmine in lontananza, ok? Però ha qualcosa che non torna, cioè ci somiglia al suono del fulmine, ma non è la stessa cosa, non è lontano, non lo sai, e viene dalla stanza a fianco. Cosa vuoi fare? Ora e Lieto stanno dormendo, quindi? E ora sta dormendo secca. Lieto non ha notato il fulmine, quindi o sta dormendo o fa finta o è in dormiveglia. Allora mi rivolgo a lui e dico a bassa voce: Lieto? Dimmi. L'hai sentito anche tu? No, stavo dormendo, non ho sentito un benino di niente. C'è stato un botto nella stanza qua vicino. Ah, sai i coglioni che lancia per terra la roba e mi giro dall'altro lato, tipo. Se fosse successo qualcosa, non mi sembrava normale. Deve alzarmi, sono stanco. Va bene, andiamo a vedere, andiamo. Esco, vado a controllare, busso alla porta. Ok. Il tempo che... Lieto si alza, capisce cosa sta succedendo, è in grado di camminare, eccetera. Passano 3-4 minuti e vedete dalla porta uscire Miff, fumante. Fumante in che senso? Nel senso che c'è del fumo che sta uscendo fuori da Miff. Bellissima quella cosa, come cazzo avete fatto? Ok. Non mi prende, scusate. Cioè, se fai così riconosce che un pollice fa l'emoji. Sì, l'ha appena fatto, che non lo prende. Credi. Dovrebbe fare palloncini, credo. Quasi così. Non vedo l'ora che aggiungo quello tanto... per quando fai. Sì, no, ma il cooldown. Non lo fa più, vabbè. Mi spiace. È stato bello finché vabbè. È durato. Dicevi, c'è Miff fumante. C'è Miff fumante, esatto. La vedete sudata, la vedete provata. È letteralmente, cioè, la cheat face è questa. Cioè, distrutta, insomma. Non nota nemmeno che siete lì finché non dite qualcosa. Esatto. Miff, tutto ok? Miff posa lo sguardo su voi due e fa... Dovevate dormire? E io stavo dormendo, lui mi ha svegliato. Ha detto che ha sentito un botto, non lo so, sono stanco io. È tutto a posto. Va tutto bene, e allora io torno a dormire, eh. Buonanotte, saluto sì, Miadone. Sì. Si gira verso la stanza e fa... Forse più tardi. Stai bruciando? Cosa sta succedendo? Sta bruciando? Ad un esame più attento di questa cosa, il fumo viene fuori da sotto i suoi vestiti, fondamentalmente, e guardando in corrispondenza da dove viene, è un filo di fumo, ok? Non è che sta fumando tantissimo, però c'è proprio un... Ci sono dei segni che ricordano delle ramificazioni di capillari rotti, insomma, sangue sotto pelle. In che senso fumando? Cioè, inizia a patpattarsi ed effettivamente sente dolore, sente un sacco di dolore, cioè un sacco di male. Fa... deve essere stato per prima. Non ne fa parecchio male. Non lo avrei mai pensato. È tutto a posto, Nibel, non preoccuparti. Devo soltanto darmi una controllata. Okay. Io sto tipo già rientrando nella stanza sbadigliando. No, no. Letto. Buonanotte. Fate un urlo. A te. Beh, buonanotte allora. Se sono problemi, fateci sapere. No, no. No, tutto sotto controllo. Miff vi fa un sorriso super stanco, no? E sembra quasi nervosa, mettiamola così. Molto nervosa. Faccio un cenno con la testa e mi dirigo verso la camera. Ok. Vedete Miff che non rientra comunque, Nibel. Cioè tu vedi che rimane lì fuori, si accascia in corridoio. Si accascia in corridoio? Sì, se c'è tipo spalle al muro, si siede, tira fuori un taccuino. Ah, ok. Vabbè, allora mi dirigo verso la porta, gli do un'ultima occhiata per vedere cosa stai facendo, poi rientro in camera. Scribacchia, giusto? Sì, molto enfaticamente, cioè in modo con enfasi, ecco. So, yeah. Ok, quando rientrate nella camera, ora sta ancora dormendo, avete i vostri posti, se non volete fare niente di particolare, arriviamo direttamente al giorno dopo. Per me va bene così. Giusto? Per me va bene, sì. Ok. Fatemi vedere se ho un'altra canzone. Intanto provo a raccontarvi com'è la notte. È iniziata la brutta stagione. Piove quasi tutti i giorni. Quando non piove è comunque molto nuvoloso. Insomma, anche se siete nella parte sud del mondo, dove in generale si sta meglio, comunque... il clima è migliore, essendo ottobre inoltrato, se non novembre, è problema, cioè, non è la stessa cosa. E vediamo se va. Oddio, dove cazzo l'ho scritto prima per farlo funzionare? Qua, ok. Vi cullano il sonno, per quelli a cui questa cosa culla il sonno, il fruscio del vento che sbatte... gli infissi di legno che fa muovere le fronde degli alberi. Comunque è una città con tanti alberi in giro per le strade, per il vialone che avete davanti. La luce lunare quando non è obnubilata dalle nuvole, colpisce le vetrate. Avete delle vetrate perché siete in una chiesa, vi ricordo, in un modo molto poetico, molto carino. E poi arriva la mattina, e per come sono costruite le vetrate, pochi raggi del sole che riescono a filtrare, perché a quanto pare alle 6 del mattino è diventato limpido il cielo, formano delle figure geometriche sul pavimento del vostro, in realtà sul muro del vostro, della vostra stanza, che appunto richiamano la divinità Yelos, tutti i simbolismi che avete già visto al piano di sotto, quindi una corona coi raggi e altre cose. E quelli di voi che sono più sensibili a queste cose si svegliano con questa luce. Vorrei che mi diceste chi di voi si sveglia in questo modo. Io di sicuro no. Scusate, però io in amico se dormito un cazzo stanotte. Ho tirato un dado per vedere se mi sveglio, ho fatto uno, quindi probabilmente è un infarto. Bene, la luce solare in nessun modo impatta il tuo sonno. Ci sta, mi piace come ragioni. Lieto? Cazzo è sta cosa? Spegni, che mi sono? E si alza, tipo. Seduta e in preghiera c'è Ora che sta guardando verso il sole. Con le mani congiunte. Ok, ci sono delle tende in questo posto, potresti chiudere nel caso, che piacere. Sbadiglia in maniera molto plateale e dice: no, credo che il punto della chiesa di Yelos sia venerare il sole, e quindi no, non ci sono tende. Il sole c'è tutti i giorni, tutto il giorno, perché dovete farlo proprio la mattina? Guarda che non sono di questa chiesa io. Quindi perché stai pregando? Ieri ho scoperto che le divinità esistono. Voglio vedere fino a che punto funziona. Se esistono, secondo te ti rispondono. Fammi dormire e non rompere i coglioni. Non controllo il sole, anche volendo. Chiudi le tende. Non ci sono tende. E Lieto esce dalla stanza. Mi spiace. Nibel non ha sentito un cazzo di tutto questo. Nibel sta secco, morto. Sì. La porta si apre, la porta si chiude. Voi due siete svegli, siete in corridoio, avete fatto qualcosa? Noi due? Sì. No, Adone sta dormendo della grossa, sì. Perché sì. Si è insonniferato. Sì, quindi per altre 4 ore è tra le braccia di Morfeo. Esatto, è out. Penso che tipo abbia la camicia aperta, qualcosa, insomma, si sta godendo il fresco mattutino. Ok. E tipo, guarda Lieto e fa: anche tu la luce? Stai rompendo il cazzo, sì. Sono del tuo... della tua parrocchia. Okay. E indica la chiesa. Mi fa letteralmente... Carina. Dormito bene. Al nord sole... Capisco. Niente, hai fame. Io ho fame. Quindi andiamo a mangiare. Andiamo a fare colazione. Magari i peti hanno qualcosa da mangiare. Sì. Magari hanno qualcosa di buono. È una notte terribile. E intanto vedi ancora tu Lieto, perché Nibel l'ha notato, Lieto no, col fatto che adesso Mifa ha la camicia sottonata. E noti tipo tutti i capillari che tipo sono esplosi, di come quando prendi una vieni fulminato. Ok. Non dovresti stressarti così tanto, non fa bene alla pelle. E ti ho detto. Ok, hai capito. Niente, Nif ti segue in silenzio, cioè tipo ruote agli occhi come per dire ma che cazzo ne sai. Della serie che la prossima notte entro nei tuoi di pensieri e E niente, ti segue a ruota in silenzio. Scendete le scale e il vescovo è già sveglio. Già sveglio da un po', perché ha già gli abiti talari, è già arzillo, sta già facendo robe, sta pulendo la statua di Yelos. Non ce n'è bisogno di farlo, lo sta facendo ma non la sta lucidando, diciamo. E scrostando il sangue dal parchetto. Sì, esatto, quello che non è riuscito a scrostare ieri anche. No, in questo momento esatto sta proprio lucidando la sfera in corrispondenza dei punti dove è stato fatto il taglio e poi è stata rimontata. E per quanto stia facendo un buon lavoro, si vede che c'è un punto in cui è scrostata. Quindi non tornerà mai più come era prima, realisticamente. E infatti è talmente assorto da questa cosa che non vi sente arrivare. Padre, dov'è la colazione? Padre! Ah! Ben svegliati! Io sono un po' cagliato. Che cazzo vuoi? Dimmi! Ti pare il modo? Ho fame! La macchina del cibo è ancora attiva. Ha delle cariche rimaste da ieri, quindi se volete potete usare quella. Bella, e gli do una pacca sulla spalla a lui. Vai. Guardi che hai dimenticato un pezzo, e gli indico tipo un tocco di statua che è sistemare. Sì, ho visto. Sarà un processo lungo, ma è anche una macchia di sangue lì. Come dicevo, sarà un processo lungo, ma sono certo di riuscire. Allora, io ho un'immagine del vescovo, però con degli abiti che non c'entrano un cazzo. Questa è l'immagine del vescovo. Dov'è che la mandi? Sulla chat. Anzi, questo era il vescovo ieri, perché c'aveva la barba dopo che il timeskip. E questo invece è il vescovo oggi, perché si è fatto la barba, di mattina presto. Ed è ringiovanito di 13 anni facendosi la barba. Un numero non a caso. Vabbè. Ma perché li fai pelati? Perché non posso sessualizzare quel vescovo? Puoi sessualizzarlo? E come? Stai scherzando? L'altro. È proprio no, è pelato, mi fa schifo. Sì, senza... Ok, l'unica differenza è che è senza occhiali. Diciamola tutta. Perché gli occhiali... Per il resto è proprio lui che sta contemplando la statua, sta pulendo, sta facendo. Se vuole gliela pulisco velocemente la statua, eh. Dianic, io vado molto velocemente a buttarmi giù dal balcone, se non ti dispiace. Come mai, Eddie? Niente, poi te lo spiego. Non faccio domande. No, per me pulire la statua, tending to the god, è una roba religiosa, è una specie di rituale. De gustibus. Sì, non vi preoccupate. Mi raccomando, anche per le macchie. Con calma si farà tutto. Cibo. Sì, la macchina è preimpostata per fare delle robe standard, cioè i modelli di Food Maker hanno una serie, Dio santissimo, of the rosary, per favore, do not non mandarmi messaggi mentre giochiamo a D&D. Cosa? Non mandarmi messaggi mentre giochiamo a D&D, per favore. Mai più. Mai più! Non parlare così di mio padre. È una cazzata tra di noi, scusate. E cosa stavo dicendo? Ah sì, i modelli di macchinari Food Maker hanno dei cibi preimpostati. L'utilizzo è che alla gente piace mangiare le solite cose, ma soprattutto che costa meno rifare gli stessi piatti. Quindi, e cosa ci offre il menù per la mattina? Il menù colazione è una roba immangiabile per gli estranei, che è praticamente un pane non lievitato e formaggio. Posso tipo modificare le impostazioni della macchina? Puoi modificare le impostazioni della macchina. Hai le conoscenze necessarie per fare questo genere di cose. Ok. E allora mi faccio il breakfast all'italiana. Benissimo. C'è tipo latte e cereali. Sì. Non latte e biscotti? Latte e cereali. Cereali. Lascia fare. È per metà. Sai, piuttosto che pane e formaggio di mattina, mi si accontenta nonostante l'orrore che ha appena visto farti creare. Ora, voi avete un problema tecnico, ed è che non avete un recipiente per questa cosa. per Lieto non è un problema, allunga le mani. Lieto ha ottenuto il suo conca di latte e cereali. No, cioè, la becca tipo le galline. Bello. Prego, Mif. Se ti trovi meglio ti faccio tipo una ciotola. Però devi tenermi un attimo. C'è Mif che ha di vita e tra l'altro gli dice, ma scusami Lieto, e vedi che per un attimo sorride, non potevi prendere la sfera tagliata comodamente a metà? Via la sfera con le mani e ci rovescio dentro latte e cereali e me la porto via. Bellissima l'idea, purtroppo la sfera è stata sigillata ieri sera. Cioè, dovresti rispaccarla per fare sta cosa. Per favore, please do not. Please do not. Ok. Hai rischiato di prendere l'HIV, però. Sì, esatto. Ma l'HIV sarebbe la cosa meno grave. HIV millenario. Sì, sì. Oddio, Fanny, ve l'ho detto, sta sessione... Mi fa chiedere al prete se ha una tazza. E non del cesso. Vabbè. È sotto antistaminico, Sara, quindi sta sdando. Ma hai preso la fine. Basta l'odore. No, ma le fine non ti stanno. Ragazzi. Ah, allora. Abbiamo delle ciotole. Sì, ci sono. Arriviamo. Arriviamo delle ciotole, cioè sono le mie, sono al piano di sopra, c'è un cassetto e ci sono alcune cose per mangiare, alcuni utensili. Fruga, non ti fare problemi. Grazie. Ne prende una anche per Lieto. No, cazzo. No, aspetta, Lieto se lo ricorda a questo punto che la magia la conosce decentemente. C'è una tazza, se la sa fare. Sarebbe un rituale, ma te lo concedo. A meno che non vuoi, a meno che non vuoi farlo con litogenesi, allora lì fa molto ridere. Bellissimo. C'è della pietra, no? Sì. No, litogenesi la crei tu. Eh sì, allora a posto. Mi creo una ciotola di pietra. Sono 20 minuti che sei sveglio e hai già buttato via 3 quarti del tuo mana. Posso dire? Worth. Al centro della chiesa, questo lo dico anche per Nibel che è al piano di sotto e sentirà qualcosa di questo. Mif, senti una forte energia magica, naturale, venire da dietro di te mentre stai andando a prendere la ciotola. Cosa fai? Mif letteralmente che stava per inciampare nelle scale da quanto addormentata è, si gira e si aspetta, non so perché, Adone. No. C'è... No, c'è Lieto che in un angolo della in un lato della chiesa ha creato un'eruzione vulcanica interamente contenuta in quell'angolo della chiesa. Grossa così. Cioè non è enorme, è grossa così. Questa eruzione vulcanica fa dei lapilli, cioè delle fiamme, delle cose, e poi Lieto riesce a moldare questa cosa fino a formare un recipiente di pietra. Vabbè. Io metto dentro le latte cereali. Ti do i punti per aver usato questa spell. Grazie. Ma dai! Ma scusa! Dimmi. Mi servirebbe anche un caffè, però. Riesco a farmi la tazza. Non esiste il caffè. Non esiste. Ah. Lieto ho un problema. Mi spiace, devi viaggiare nel tempo. Hai tutti gli strumenti per farlo. Improvvisamente Lieto muore. Muore! Cosa possono usare al posto del caffè? Te. È buono. Alla fine la teina e la caffeina sono la stessa sostanza, solo che sono stati scoperti da due persone diverse, sì. Quindi hanno un nome diverso. Infatti, ma non credo che il Lieto berrà il tè, però cioè, ho questa sensazione. Mif ce l'ha, niente, cioè Mif dopo aver assistito a questa cosa pensa, show off in italiano cos'è? Pagliaccio, pagiasso. Pagliasso. Sì. Non proprio Mattias, I guess. L'ha detto nella sua lingua invece che nella nostra orgogliosa lì. Vabbè. Ok. E se ne va su e va a frugare e vado in bagno. Sì, Gianni ci muta Faithful, per favore, perché devo scrivere da qualche parte. No, ma va bene, scherzavo prima. E facciamo 5 minuti di pausa? Vai. Beh, io mi prendo a bere. Arrivo. Ah. Scusa un po'. Vado a bere anch'io. Mi spruzzo le droghe nel naso. The drugs. Bello. Bene. Non ho detto nulla. Quanto è diversa, ah, diversa sta webcam rispetto a quell'altra? Ah, ma non c'è nessuno. No, mi fa molto rosso questa cosa. Ci sono sempre. Ciao Ica. Se mi con meno capelli in questa web, vero? Ma sono d'accordo. Sì, se non c'è tipo un età. Perché è più basso. Dai, sì. No, la Coca-Colina da mignona. La Coca-Colina Game 2. Un neurone in due. Sì. Io lo uso, per essere stupido. Sì, esatto. No, io non lo sento. Chi devi chiamare? Se avessi un euro per ogni persona che mi ha detto di prendere gli estrogeni per farmi ricrescere i capelli. Piani, ci sei richiesto. Io mi sto divertendo un sacco, ragazzi. Non avete... Sara, mi spiace. In questa casa non ne ho di bicchieri d'acqua. Ho di bicchieri d'acqua. Fai come lieto che fa esplodere un vulcano e dopo crea qualcosa. Almeno non mi sei interessante. Piani, ci basta farmi ridere. Vedo un gatto, vedo. Meo. Au, au, Cristo Dio. Come si chiama la belva? Si chiama Kiri. Kiri! Mi sento usato. Ecco il mio bicchiere di vetro con la... Bene. Micio! Ciao. Allora, un OT, poi ripartiamo. Io, Eddie e Sara questa settimana abbiamo scoperto che è più facile far diventare una Coca-Cola una granita che non farla esplodere. Bello. Tutto grazie a me. Vedi? E alla DHD. No. Cioè, dimenticata... No, non è che mi sono dimenticata, è stata una scelta consapevole. Io quando dico le bugie... Ma sì, ma infatti... È tipo il filo che mi dice che non gli piacciono le mie... King, avrei una storia al riguardo su questo, però sorvoliamo e per dopo. Let's sorvolate, esatto. Ok, direi che passiamo a Nibel e Adone in quest'ordine. Prima Nibel, hai sentito un... venire dal piano di sotto. Ok. Mi alzo, c'ho il cemento in bocca praticamente, dopo... tutte le sostanze consumate negli ultimi anni e nella giornata scorsa, scendo giù un po' a passo pesante, un po' ancora mezzo addormentato, non ha dormito particolarmente bene, non che sia una novità per lui, e dicevo, nella stanza con te c'è Ora che sta pregando allegedly, cioè la ignoro, in realtà non me frega. Però non sono nella nel mood per parlare al momento, sono ancora mezzo addormentato, mal di testa, eccetera, eccetera. Scendo giù, mi tolgo la giacca, quindi probabilmente Pietro mi vede per la prima volta con il braccio scoperto. Ok, non so se c'è l'immagine. No, perché l'avevano tolta. Ok, sì. Se mai puoi rimandarla ora sul gruppo. Vabbè, con calma. Sì, sì. Ce la ritrovo. E scendo giù vedo che stanno facendo gli altri. E quando vedo che stanno provando a far colazione invano, tiro e mi dirigo verso il... Ignorando il piccolo vulcano. Sì, sì, no, faccio finta di niente. Vado verso il vescovo e vedo se ha bisogno di aiuto per mettere a posto la sfera. Apprezzo il pensiero, ma è un'azione religiosa per me. Vedo che ha fatto un 180 da quando ha avuto qualche chiarimento in più. Sì, sicuramente ho realizzato che c'è qua di più di quello che pensavo. Mi serviva avere delle conferme per avere fede? Sì, da tanti anni mi ero convinto che quello che avevo visto erano solo allucinazioni o sogni febbrili di un bambino. Lo capisco. Magari un giorno anche a me verrà l'illuminazione o qualcosa del genere. Per ora sono abbastanza a posto, se così si può definire. L'uomo si mette il braccio sulla spalla e ti guarda dritto, cioè smette di fare quello che stava facendo, mentre ora era un po'... cioè lo stava facendo distrattamente, e dice... In realtà io la vocazione l'ho sempre avuta per tutta la vita, ma è come se ci fosse qualcosa che mi impedisse di ricordare correttamente la religione, il Dio, tutto quanto. E questo evento ha risvegliato tutti i ricordi collegati, quindi se dovesse succederti qualcosa del genere vuol dire che è già dentro di te. Non credo che ci sia mai stata fede dentro di me, onestamente, anche da quando ero bambino. Non dico fede. Credo che le divinità siano qualcosa di più complesso che un insieme di credenze e basta, ma una specie di forza del mondo. Magari hai avuto dei contatti con qualche forza superiore e li hai bollati come qualcos'altro. Questo è quello che è successo a me. Chi lo sa, magari troverò qualcos'altro a cui dare la colpa. Quanti anni hai? 52. Quindi hai visto anche tu la Apeira prima della... molto prima delle centrali di Mana, hai visto gran parte di Akaius prima delle centrali di Mana? Sì, ho visto la costruzione, ho visto le conseguenze. Anche molto vicino, direi. Hai sentito, non so se è solo una cosa mia, come se il mondo, da quando ci sono, avesse perso spiritualità? Ho sentito? Forse mi sono spiegato male. Ho capito cosa intendi come sì, sì, no, faccio entro nel personaggio. Cioè sto facendo rullando sì. Anch'io. Vai. È come se quando io ero ragazzo il mondo fosse più magico, più etereo, mentre da tanti anni, per me da almeno 30 anni, è molto pratico, reale. Ogni cosa che succede è una cosa che è successa, ogni storia che viene raccontata è una storia con un inizio e una fine super determinata. Mentre invece una volta non era così, le storie erano aperte, gli eventi erano aperti. Non mi sembri un gran lettore, ma anche i romanzi che leggevo da piccolo, le storie che leggevo da piccolo, erano molto diverse da quelle che stanno uscendo adesso. I giornali, gli articoli di giornale erano completamente diversi. Non lo so, non credo di avere ancora l'intero disegno chiaro. Quando ero piccolo c'erano racconti, storie, anche non scritte. Mio padre era un pescatore, c'era sempre la paura di andare in mare. Ti pauso solo per dire che Miff e Lieto, se vogliono origliare, possono. Questo discorso. Miff si will con quattro tatte. Quanti è che siamo? Due, tre, quattro. Ah no, c'è ora anche quattro tazze prese dal Ok. Ti sta ascoltando molto rapito sì. da questa cosa su tuo padre. Mio padre era un pescatore, la paura dei mostri marini era molto concreta. E Mostri non solo marini. quella, anche nella mia vita da minatore, cioè la storia dei mostri sottoterra era molto comune. Beh, Diciamo ma che sono queste storie, la paura di queste creature che ci faceva andare avanti. Sembra un po' come folklore. sarebbe interessante capire di più di queste cose, i fondamenti. I mostri marini esistono. I mostri sotterranei non credo, o meglio, non ne ho mai visto uno, non ne ho mai sentito parlare da una fonte attendibile. Sì, E no. I mostri strano. marini sono una certezza, quello lo so bene. Però sì, anche l'idea di poterli combattere non solo con le armi, ma anche con la fede. Cioè, da qualche parte deve essere radicata questa convenzione. Forse le persone sono stancate di avere fede e si sono affidate a qualcosa di più concreto. Può essere. Prete riprende i suoi lavori. Cioè, chiaramente sta pensando a quello che vi siete detti, però è in silenzio. Prontamente Miff gira l'angolo e vedendo Nibel sveglio fa: Cibo? Sì, volentieri. Va bene qualsiasi cosa. Il Ottimo. sacerdote fa cenno di no con la mano. Perfetto. Allora Miff va semplicemente a prendere la colazione che ha già preimpostato dietro. Tipo ordina. Nibel è una roba aliena questa cosa qua. Sì, Cioè, latte cereali. tanto per cominciare La perché è stampante dolce. 3D del Non tanto la stampante, ma la cosa che ha stampato. Ah, ok. Più che altro perché ad Apeira la colazione è salata e questi ti stanno dando colazione dolce. Sì, ma penso che Nibel sarà 2 anni che fa colazione con alcolici per tutto il Benissimo. resto della Quindi, giornata. sì, ci sta, ci sta. Il tè corretto, visto che non c'è il caffè. Bellissimo. E niente, insomma, mi te lo porge e fa. Ora è ancora su? Io lo guardo e dico, cos'è questa cosa? Atrocità. Mi si risponde così. Però Va bene. è interessante come gusto. Ma è Un atrocità. suono dal fondo. Non avete capito un cazzo perché sta mangiando io. Mi si gira, tu non hai cazzo di come si mangia. Papà, ha creato un vulcano per fare una ciotola, Top figurati. 1 motivi di litigio al mondo, la cucina. Siamo C'è italiani, una prima raga. volta Esatto. per tutto. Me lo farò andare bene. Comunque ora sembra che stesse pregando. Non la facevo tipo da preghiere, onestamente. Beh, c'è ancora Done che è su, vado a portargli la colazione. Ho come l'impressione che abbia avuto una notte particolare. Particolare. Pollicione in giù! Beh, ho come l'impressione che abbia avuto una notte intensa. Beh, Ok. trovate qua. Va bene, facciamo sta cosa in cui sali le scale. Sì. Secondo me ci sta. Il secondo secondo me ci sta un botto. Cosa ha detto? Mi pare che sta venendo a prendersi la crema. Tranquillo. Amen. Ha bestemmiato nel caso non si fosse sentito. Altrimenti non avrei detto amen, non sono pazzo. Ragazzi, devo farmi distinguere nella mia veniticità. Ci sta. Veniticità? Nella mia vanità? No. Sono del vanità. Vabbè. Scusate, andiamo avanti. Mettimi il telefono. Ok. Hai due porte. A sinistra dove hai dormito, a destra dove non hai dormito. E Nif bussa quella dove non ha dormito. Non apre nessuno e non senti niente dal suo interno. You know what? Può andare a farci fottere. Andiamo da dove. Busso. Sono sveglio? No. No. Minchia. Mifo controlla se è morto o meno nel mese, cioè entra e entra e tipo ti mette un dito sotto il naso per capire se respiri. Sta respirando, cioè lo vedi anche che respira, però non dà altri segni di vita oltre a respirare. È nella stessa identica posizione in cui l'hai lasciato. Cioè, mi fa combattuta perché fa, cioè, ma io lo lascio dormire, cioè, non so come effettivamente comportarsi in questa maniera. Ci prova semplicemente una volta, lo tocca leggermente sulla spalla e fa, perdona? Non si sveglia. Non si sveglia. Fa, bene, bene l'ho rotto, ottimo, perfetto. È iniziato bene, ottimo modo per inaugurare le mie nuove capacità. Perfetto, vedi che un pochino nel panico ci va. Ah, io non vedo niente. Giusto, vero. E niente, gli lascia comunque la tazza lì, chissà mai, esce fuori, entra da ora. Ok. Quando apri la porta... Dentro la stanza c'è Ora che non ha più le mani congiunte, ma aperte. È in ginocchio davanti alla stanza e la luce solare che sta filtrando, che appunto per ancora qualche minuto sarà intensa, e a giudicare dal resto del cielo le nuvole la copriranno presto, sta formando dei simboli strani per terra. Cioè, come se qualcosa stesse manipolando la luce, facendole cambiare forma. È un... non dico vortice, perché non è a spirale, però stanno formando delle cose che si muovono. Ok. Perché la fiera dello strano, porca miseria? Non può essere qualcosa di tranquillo. Vabbè, cioè... Mifa voleva semplicemente portare la colazione, non è che voleva intappare in cose e tutto il resto. Allora, dici cioè, qualcosa? Sì, fa, ti lascio la colazione qui. E cioè fa tipo... Oh, ciao! Sì, sì, vieni pure. Mifa chiude la porta, pian piano si avvicina, fa vedere tipo la tazza, no? Oh. Cioè questo. Fico. Già. Ieri abbiamo scoperto che Yelos esiste, no? Sì. E ho provato a usare qualche magia collegata. Ho letto un libro sulle divinità, comunque percorso ecclesiastico, e però non funzionavano. E avevo un manapenny. Questo del posto che ha menzionato il vescovo l'altro giorno. Un secondo che non mi ricordo un cazzo. Io Irla, perché sono una persona brutta. Pruzurk. E usando il manapenny di Pruzurk, che ha un cerchio con dei raggi come effigie, se ti interessa, davanti al sole, in questa chiesa, in un punto particolare, sembra che io abbia fatto qualcosa. Sì, lo vedo chiaramente che stai facendo qualcosa. Vero? E non sono sicura di come si controlli e ho paura di smettere di farlo. Perché non so cosa succede quando smetto. Beh, come ogni grande studio, quello comportano anche grandi scoperte. Dovrai fare degli errori al riguardo. Tu che magia lanci quando usi un mana penny? Una magia che manifesta le mie emozioni e le manipola e... Normalmente anch'io uso passione tormentata. Stavolta sembra una versione molto diversa. Non trovi? Sì, non è così che si manifesta solitamente. Sì, ho paura che esploda se smetto di controllarla. Riesci a spostarti? Sì, o posso muovermi. Però se tolgo le mani perdo il controllo di questa cosa. Farlo fuori? Ormai ho cominciato dentro. Come dovrei fare andare? Ah, dici camminare all'indietro? Magari ti segue, oppure... Non ho ancora provato. Dici che vai fuori... Non lo... Facciamo una prova? Mi fa apre la porta, si mette in corridoio e fa... Vai? Fa un passo indietro e la luce, che prima era per terra... Fa lo stesso effetto, però sul muro alle tue spalle. Io sono ancora viva! Invece si gira tipo... no, non oggi! Ho sopravvissuto, cioè sono sopravvissuta molto bene! Fa, ora? Io non so se ce l'hai con me o meno, ma il sigillo è anche qua dietro, quindi... Non è proprio un sigillo, è più... Cioè una... Sì, sì. I simboli. I simboli. È anche dietro di me. Faccio un passo avanti? Prova. Faccio un altro passo indietro, se no. Mif si sposta dal punto dove c'è il vortice, no? Prova un altro passo indietro. Il flusso di questa cosa diventa molto piccolo, diventa una specie di cilindretto interamente contenuto in un punto del muro. E lì sì che ha una forma che ricorda vagamente un cerchio con tanti raggi. Sì. Meglio? Mif non può capire. Di 10. Religion. Vai fin là. Vado fin là. Arrivo. Lo tiro io? No. Sta andando lei. No, sto andando... Questa è una tastiera, devi scrivere slash roll 1 di 10 più la tua religion. ehi, Eddie, con le tue mani un tice. È lontano. Guarda, ce l'ho sull'altro schermo. Mi toccai. Che ci sono. Non sai tu. Tu sei qui. Che è... 3... No, 2. 2. Prema 2, dottoressa. Prema invio. 8. Prego. Bella sta scena. Sono sicuro che non ha interrotto il flow e che non ha rotto il cazzo a nessuno. No. Sto dormendo. Fatti. Che caldo. Dimmi, dammi feedback quando ci sei, perché sennò... Sì, ci sono, ma non capisco perché ci si è buggato. Ok, ottimo. Hai la sensazione che sia una forma di teurgia di livello molto alto. Ok. Non entro nel dettaglio, però... Ok. Mi fa... Hai avuto cambiamenti di fede dopo... La scoperta non scoperta per me di ieri? Fede? Sì. Non sono il tipo da... Non sono il tipo da affidarsi a qualcun altro per fare le cose. Però adesso ci credo. No, è più una questione di... trial and error, test. Faccio delle prove. Voglio vedere cosa funziona. Prova a lasciarlo. L'affare, che è sul muro, esplode, ok? Fa un buco nel muro, molto preciso, molto profondo, come se una spirale di fuoco o qualcosa del genere l'avesse trapassato. Ora... Di Dragon Ball. Ora si avvicina, guarda il buco e dice: carino! Dice che fa... Interessante, in realtà. Sì. Sì. Non credo che funzioni con gli altri manapenny, ne ho buttati via 4 prima di questo. Hai provato altri manapenny? Sì, ho provato quelli della mia città, di Oclica, diciamo. Ho provato uno di Apeira, perché siamo da Apeira, quindi ne avevo un po'. Ne ho provato uno a caso, non mi ricordo di che cosa fosse, l'ho buttato via. E hanno fatto tutti Passione Tormentata. Poi ho detto, ma prima il tizio ha menzionato Pruzurk, perché no? Ce n'avevo uno da parte e ha funzionato, strano, vero? Hai detto qualcosa? Eh? Hai detto qualcosa per attivarlo? Non mi ricordo, ho pregato un po' prima di fare questa cosa. Ho pregato il dio Yelos come prevede il suo culto al mattino, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi ricordo la liturgia, se vuoi ti do le pergamene sacre, come cazzo si chiamano i breviari. Quindi soltanto i manapenny di riferimento funzionano con... delle magie selettive. Non è uno studio scientifico molto accurato, però sembra un risultato preliminare coerente con quanto abbiamo trovato. No, ti spiego. Ho avuto caso, in realtà uno, non so magari se sia associato, che il manapenny era di Apeira, e sappiamo qual è il simbolo di Apeira, e sono spuntati i funghi. Ma c'è stato. Ci sono state delle frasi, ok? Per questo ti ho chiesto se hai fatto un'attivazione. E fammi prendere il breviario. Allora, la liturgia di Yelos. Al mattino bisogna pronunciare questo. È tutto scritto nella lingua di Apeira. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. L'ultima riga è Actis ton Yelos. Non so cosa voglia dire. Abbiamo un manapenny di Apeira qua? Sì. Misto prova a fare sta cosa che ha sentito da Patroclus e adesso vediamo se funziona o meno. Te la ricordi? Enkataton Meiklon. Minchia, bravissima. Quando dici la roba, il manapenny è come se avesse un cortocircuito. Cioè, è come se stesse per fare qualcosa di diverso da Passione Tormentata e gli mancasse un pezzetto. Quindi quando l'energia sta per uscire dal manapenny, non riesce e ritorna dentro. È una roba stranissima, non te era mai successa prima con nient'altro. Quindi ho il manapenny ancora carico? Sì. L'hai visto semplicemente come se raggio per raggio, spicchio per spicchio, si spengesse e poi si riaccendesse. Ok, strano. Lo dice anche ora. È questo che intendevo, è questo che ho sentito. Però ha funzionato quella volta, non l'ho fatto io, l'ho fatto... Chi l'ha fatto? Vedi che... L'ha fatto il padre del contatto che andremo a conoscere questo pomeriggio. Magari, non lo so, forse era troppo di meno. Non tempo. Bello, non ho idea di cosa stiamo facendo. Mi fa sorridere, fa, vuoi fare colazione insieme agli altri? Continua a guardare però il manapenny, no? Chiedendosi cos'è che manca. Perché... Ti strappa di mano la ciotola, la guarda e dice, cos'è? Brutalità. Ogni volta che il tuo. Sì, perché no? Visto che sono bravo a recitare. Sono proprio bravo. Sono proprio bravo a recitare. Perché ovviamente stavo recitando. C'è Adone che è letteralmente svenuto di là. Puoi darci un'occhiata? Hai detto che eri una sorta di dottoressa, no? Vado. Grazie. Spalanca la porta con cattiveria e odio, con la mano libera, perché con l'altra c'ha una ciotola in mano. Sta dormendo. Sì, l'ho visto che sta dormendo. Solo che se tu lo tocchi non c'è risposta, respira, ma sembra in catalessi, sembra morto. Ora si avvicina a Adone, lo prende e lo scuote, e Adone si sveglia. Adone si sveglia e subito credo dà una manata a qualcosa, qualcuno. Vola via la ciotola con latte e i cereali. Cosa c'è? Si è svegliato. Pensavo avessi un metodo empirico. Ha funzionato, però. Grazie per il dolce risveglio. Colazione e mette letteralmente davanti. Sarà che io l'ho mangiata, domanda master. Forse in qualche viaggio, a casa tua no. Non so, il latte sì, Zuppa? Io personalmente non mi piace, però è passabile. Bevo annuso, sento che odore di latte, bevo. Dei pezzetti di roba dura ti si conficcano sulla gola. Capisci che bere non è la scelta giusta. Mastico e bevo, cioè cosa per dico? Meglio, funziona già meglio questa operazione doppia. Bevo, mastico, ingoio. Mi fai invece intelligente la sua tazzina con un cucchiaio. Me l'hai dato il cucchiaio? No, il cucchiaio l'ha preso solo per lei. Molto divertente questa scena. Allora, Miff, sì, Adone si guarda un attimo, comunque c'è bisogno di qualcosa? No, sembravi morto mentre dormivi. Sai, ho preso i sonniferi. Ha preso i sonniferi. Per dormire bene. Ah, non lo sapevo, pensavo che la magia avesse fatto l'effetto. Non importa, ho preferito dormire. Ok. Vi serve qualcosa? No, era proprio... Allora, ecco, mi cambio, vi raggiungerò. Sì. Ciao, grazie per la gratitudine. Ma dove ti guarda male? Chiude la porta. Con Nora dentro, senza farlo... No, aspetta che Nora chiedo. Ah, ok. Riempie di cose che aspettavo. Esatto, sbatte la porta in faccia a Nora. No. È simpatico. Sì, come te. Ho notato prima, mentre stavate parlando, che hai dei segni. Tutto bene? Cosa? Sì, tutto a posto. Inizia ad essere self-aware, no? E tipo si riabbottona la camicia, effettivamente. Vuoi che ti guarisca? No, grazie. Non mi piacciono queste cose. Senza Mana Penny, cioè con la mia magia. Puoi farlo? Sì, sono una dottoressa. Ok. Vedi che Miferestia ha conosciuto sempre un modo per guarirsi, ok? Cioè, quindi è incuriosita, ma è anche vero che... Guarda in alto. Non ti sta ascoltando, minimamente. Sta guardando. Ti tiene proprio il mento tirato su, sì. Slaccia la camicia e inizia a guardare lo stato della pelle. Dice, sì, sembra che ti abbiano colpito con una variante di folgorazione. Sì, debole. Debole. Sì, no, basta un cast di questo. Intravedi, perché comunque la testa tirata su, che la sua mano si illumina di bianco e ti dà uno schiaffo sul petto. Cioè, pum. Ok. E hai avverti un bruciore nel punto in cui ti schiaffeggia, forse proprio per lo schiaffo, e poi senti la pelle pruderti. Non in maniera drammatica, però senti un prurito sul petto. Dagli 2 minuti. No, non ti grattare. Ok. Era necessario il sapone? Deve arrivare fino in profondità, non sei danneggiata fuori. Ok. Come hai fatto? Vedi che ha la mano che continua a fare così, poi si ricorda, poi ritorna, poi si ricorda, poi ritorna. Deve fare la scena saffica in cui ti tiene le mani aperte? Per favore, no. Dio mio. Oh, tu sei una donna fidanzata. Io? Ah, sì, scusami. No. Ah, scusami per dire. Amica tua, Miff Pianic. Ah sì, è vero. Vabbè, comunque Adone direi che beve, mastica in gloria in questo ordine, poi si prepara e scende. Domanda, il dito sempre uguale, la stiffness sta aumentando. La mattina ci sta. Sì, esatto, infatti la mattina ci sta, però non è più estesa, non arriva fino alla spalla. La spalla la muovi ancora decentemente. Io ho una domanda da farti, Bianchi, perché sono stronzo, ma noi non avevamo la cosa che dovevamo tirare i dadi quando dormivamo bene o male? Sì, lo facciamo appena servono i punti vita. Ok. Perfetto. For your interest, allora, è un riposo normale, quindi tirerete i dadi base, senza bonus. Bombo. E allora niente, comunque Adone si prepara anche abbastanza velocemente e scende, giusto? Mm-hmm. Sì, sì, sta appena sopra. E vi raggiunge appena vi trova. Vedi che... Ok, uscendo dal... dalla scala c'è... Nibel sta mangiando sta roba qua? Scusami, Adone, aspetta, fermo un attimo. Uscendo dalla stanza, nota il fottuto buco della parete? Ci arriviamo tra un attimo. Secondo me sei troppo rincoglionito al sonno. Ma dai! Non è così, no... cioè è grosso così. Ma non noto un buco nel... di 10. Ripeto, questa cosa qua non è... Esatto. Allora, questo sei te. E io direi che è percepire anche questo. Vaffanculo. Più 3. Questa sessione vai, sarebbe stata da registrare. Cioè, registra schermo. Ah, ok. 7, vai di là. Anni. Sì, sì. Quelle vecchie della tua campagna le registravamo all'inizio. Perché pesano l'ira di Dio poi. Sì. Quindi no, Nibel sta facendo, sta guardando il cantiere di dietro e il che bella la pensione. E ne vuoi una anche tu? Facciamo sta cazzata di Adone che ha rollato alto. Effettivamente noti un buco nel muro. Il buco sembra andare avanti fino all'esterno. E il modo in cui è stato aperto sembra che sia stato un cavatappi a farlo. Così a cuffo percepisco magia? No, non c'è nulla di magico. Ok, Adone a questo punto prosegue e appena vede Mip a questo punto... Che è senza camicia. Cioè io li incontro che stanno facendo le loro robe da lesbiche. No, cioè... Allora, lui dice di no, ma tutto il resto dice di sì. Esattamente. Sono in fondo al corridoio, davanti alle scale, e da lì sì che percepisci magia, teurgia. Ok. Beh, comunque una volta che scendo le scale guardo perché c'è un buco nella parete. Mif indica ora. Ora indica Mif. Hai no. fatto esperimenti anche su di lei? No, che ti fa pensare, scusa, questa cosa. Vuoi la risposta buona o quella cattiva? No. Ora ho provato ad utilizzare una magia guardante Iedus con i manapenni associati a Iedus. Che magia? Cos'è che era una teurgia? Tu pensi di sì. Ora non ha detto niente in merito. Esatto. Mif fa sua luce, fa. Sembrava una teurgia di un livello veramente avanzato. E ha creato il buco. Ci ho provato anche io, però diversamente, ma non funziona. A quanto pare le parole magiche. Parole magiche? Sì, ci sono frasi, cose, tipo tira fuori il manapenni, c'è di nuovo incantato un Maidon. Adone è così un pensiero. Io direi che te lo rollo io mente. Sì, te lo rollo io. ti suona familiare, ma non riesci a pinpointare in che momento esatto. Ne abbiamo parlato il giorno precedente. Sì. Ne abbiamo parlato con Tea. È vero, vabbè, sì. Ok, ha senso. Beh. Ha senso, sì, sì, vai. Allora te lo ricordi. Ok. Adoro dice... Familiare? Sì, non questa cosa in particolare, ma... anche io ho visto una cosa simile in un certo senso. Manca un pezzo, però. Cioè, non si attiva. No? No. È strano, perché io l'ho visto. Non è che lo devi sgretolare. A chi lo stai dicendo? Lo sto chiedendo a te, Master. Patroclus effettivamente l'ha. Se così fosse, non sapresti come fare a disgregarlo. Adone comunque dice, se volete dopo possiamo provare a fare delle prove. Sì, sarà molto interessante. Magari non in chiesa, visto che abbiamo tirato all'esterno. Io scendo, ciao. Ciao. E Gimito che si sta ritogliendo, sistemando la sì, ti lascio sistemare. Già, dopo. Scendiamo giù, buono, la colazione. Sì, sì, è stato un risveglio un po' brutto, ma... Ok. Di sotto voi due vedete prima arrivare Ora, tutta bella allegra pimpante, sporca leggermente di latte. Leggermente. E... che si guarda intorno e nota il vulcano e lo indica. Cosa c'è? Fico. Ah, grazie. Vuoi uno anche tu? No, perché l'hai fatto? Volevo una ciotola da mangiare. Vedi? E gli faccio vedere la ciotola. Tu non sei un alchimista, vero? No. Si vede. Però apprezzo chi risolve i problemi in maniera creativa. Senti... grazie. Credo che al sacerdote non piaccia questa cosa, però mi sa che è timido per dirtelo. Ti scoccia se la puliamo? Oh, sì, tanto ormai l'ho presa la ciotola, quindi sì, direi che non c'è problema. La tolgo io, non ti preoccupare. Ci metto un attimo con l'alchimia. E vedi che inizia a tracciare dei simboli per terra. E io tipo, ci hai messo la metà del tempo facendo saltare in aria, ma va bene così. Preferirei non far... collassare interamente la chiesa. Già, hai già visto che cade a pezzi. E ti indica il pezzo di legno che avete fatto cadere. Ah no, vabbè, ma c'è una buona mia, non ti dovresti preoccupare. Scendono anche Adone e Mif. Giorno. Dormite bene? Ah no, aspetta. No, tu non dormi bene. Non lo ricordo. Infatti era riferito a me? Sì. Adone ti guarda un po' così. Dopo l'esperimento di Mif ho dormito bene. Che esperimento di Mif? Mi sono entrato nella testa. Scherzo. No, non è uno scherzo. Ti serve uno scalpello bello grande, guest. Ecco perché era stressata ieri. Mi hai letteralmente fulminato. Ah! E te lo dice faccia a faccia. No, e Adone dice, io non ho fulminato nessuno. Non so fulminare le gente. Mi hai fulminato? Non ho incantesimi di quel tipo, non so farlo. Non mi interessa, mi hai fulminato. Sembrava abbastanza fulminata. Ma in realtà io... sono sempre fulminata. A parte che posso dire una cosa? Niente. Dillo. Adone oggettivamente non l'ho visto la cicatrice. È vero, perché curato adesso. Sì, mi ha curato, sì. No, dai, me l'ha fatta vedere. L'altra notte. L'altra notte non te l'ha fatta vedere. No, vabbè. Adone, sì, cioè, qualsiasi cosa io abbia fatto non era mia intenzione, quindi non mi responsabilità. Bello il modo di lavarsi le mani, mi piace. In questo caso, sì. Un rispetto. Ora vi chiedo a tutti di fare un passo indietro, cioè quelli che sono vicini al vulcano. Sì, Adone, c'è un vulcano in mezzo alla chiesa. Cos'è? E vi guardo un po'. Mi serve la ciotola, mi serve. E indico la ciotola che c'è in mano. Che ben per lontano favore, con la mia ciotola vuota in mano. Ormai dopo per favore, vita. Non distruggete la chiesa. Il vescovo è già abbastanza gentile da offrirci. Ma hai distrutto qualcosa? È un po' troppo tardi per dirlo, mi sa. Ora mette la mano per terra. Vedete un flash, dura una frazione di secondo, e il vulcano inizia a modellarsi formando un supporto che va a ripristinare la posizione corretta dell'asse legno che gli era caduto. Brava Oda. Vedi, ho dato una mano a riparare la chiesa. Grazie Oda. Il vescovo sarà sicuramente grato, vedo ancora la macchia di sangue. Cristo che è lì. E parte i maghi, questa cosa. Non ho sentito. No, ora risponde a Nibel, visto che il vescovo non coglie, cioè non accetta la sfida, non si fa trollare, e ora dice: non è una cosa da maghi, è una cosa da alchimisti. In pratica, con un cerchio puoi manipolare le cose. È un rituale, quindi lo può fare chiunque, anche se non ha una conoscenza di magia. L'unica cosa è che serve una fonte di trasformazioni chimiche, credo. Non so quale sia il termine giusto. E in pratica devo accendere una fiamma o qualcosa che generi energia del piano fisico. Un cerchio. Non credo di aver capito, però accetto la risposta volentieri. Mi spiace. Sì, È io sapevo semplice dei però. tipi che fanno in queste zone. Cioè, Non sono di queste zone. per lieto, sono tutte queste zone. Al di fuori di casa mia. E Vabbè. Wow. insomma, oggi cosa facciamo? E dobbiamo. Beh, dobbiamo andare a parlare con il vostro contatto, giusto? E io devo passare dallo speziale. E poi eventualmente, beh, eventualmente fare quegli esperimenti di cui parlavamo prima. Vuoi fare qualcosa di particolare ora? Vorrei fare gli esperimenti, chiaramente, però se avete altre priorità aspetterò da un'altra parte. Potreste prendere qualcosa in più da dove andremo questo pomeriggio? Volendo. Cioè? A prenderci questo pomeriggio, dal tuo contatto. Beh, allora se volete in verità passo un attimo dalla speziale, ma poi vi posso dare una mano a condurre questi esperimenti. E la mattina lo dedichiamo a questo. Come vi pare? D'accordo, allora se. Qualcuno ha piacere ad accompagnarmi? Ti accompagno io, dai. Tanto non c'ho niente da fare. Tu non hai sempre niente da fare dietro. Non preferisco rimanere qua oggi, sono ancora un po' intontito. Quindi se farà compagnia a Nigel, magari si mette a parlottare con Ora. Ok. E io direi che facciamo queste due scene e poi ci avviamo alla conclusione perché io sono morto. Tranquillo. Ok. Onesto. Prima lo speziale che mi sembra più agile. Ti ricordi la strada? Non era particolarmente lontano quello sulla via principale, quindi anche senza Nibel riesci a ritornarci. Lieto non c'era venuto, quindi per lui la strada è nuova, semplicemente ti sta accompagnando. Vedete che la gente inizia ad avere proprio dei cappotti, comunque dei vestiti pesanti in giro. Lieto dovrebbe reggerla, non lo so, dimmi te. Che cosa? Il freddo, il fatto che. Recentemente, sì, cioè, no, non è Zanzan. Certo. Adone come lo gestisce il cambio di stagione? E allora dipende, perché tecnicamente Adone doveva avere dei vestiti pesanti per Ok. Apeira, però con la scusa che siamo arrivati, che adesso è effettivamente autunno, forse sta bene Sì, effettivamente. ci sta, ha senso, perfetto. Vi dico già che da dopo che fate un passo fuori, la luce solare che vi aveva svegliato al mattino finisce e il cielo diventa nero, completamente avvolto dalle nubi. Sembra notte e invece è mattina, saranno le 10, ok? Cioè, sta per diluviare da un momento all'altro. E quindi in giro ci sono delle persone con vestiti pesanti, ci sono tutte le attività aperte, quindi c'è il giornalaio, c'è la gente che vende carne, la gente che vende frutta, ci sono le sulla botteghe. Via del ritorno, semmai passo dal giornalaio. Ok. E comunque vi recate subito dallo speziale, che è la signora dell'altro giorno, non tanto alta, robusta, con i capelli tendenti al rosso. Con tanto seno. Con tanto seno, esatto. Sì, è una cosa importante. Che vi guarda, guarda in particolare Adone nel suo ciuffo bianco e dice: ho preso le tue cose. Grazie, gentilissima. Quante dosi? Riesco a produrre per il farmaco che ti serve 8 dosi con quello che ho. Sì, va benissimo. E quanto vengono prodotti? E il materiale che mi mancava, quella radice rossa, è la parte che costa di più, e costa 6 monete solo quella. Il resto con 4-5 monete me la posso cavare. Raga, Viale, ci mi confermi che Adone c'ha 10 monete in sua possessione? Ne ha 6 rimaste. 6? Sì. Se hai bisogno di qualcosa ce l'ho io, però devi tornare indietro. Vabbè, pago io. Che problema? Vedi che appunto... Io vedi che quando dice il costo, Adone inizia a furgare nel portafoglio. Cioè, nel portafoglio. Tra fuori un ragno per attaccato per un filo. Sì, vedi che... Di che inizia a contare, dice, e inizia a vedere se nella sua borsa raccimola qualche moneta. Lieto alza tipo gli occhi al cielo e mette tipo le monete sul bancone, no, senza dire niente. Lì. Allora, dove ti fa dire qualcosa, ma ti è sconfitto. Cioè, grazie. Gli do tipo una pacca sulla spalla amichevole. La signora prende le monete e ti lascia il sacchetto facendoti vedere in maniera molto trasparente i materiali e il fatto che ha fatto dei preparati separati, quindi tu c'hai le dosi già fatte, separati da pezzi di carta. E... Però ti dà una gomitata e ti dice: ti ha pagato il paparino, eh? Ti tratta bene. Adesso sospira e dice: non... No, sì, sì. Mi tratta molto bene. Confitto completamente. Si gira, call me daddy then, e chiude tipo il portafoglio. E cosa fa? Chiude i portafogli. Chiude il portafogli, ti guarda, call me daddy then. Se lo rimette in tasca, tipo. Comunque, dato le circa un attimo di discorso, cioè, grazie mille, comunque, molto gentile. Ce n'è bisogno, altrimenti muori, quindi. Stavo sempre parlando sempre. Alla... speziale. Ah, no, figurati, ringrazia pure no. Lo speziale. Va bene, no, no, ciao, ciao, e me ne va. Avrei ringraziato. Mi giuro sempre, ti dico, grazie mille. Potrebbe essere che debba ritornare nei prossimi giorni, ma ovviamente avrò la somma per quel momento. Grazie. E esco subito, vado dietro e dico, ma volevo ringraziarti decentemente una volta fuori dal negozio. Capito, occhiolino, occhiolino. Allora si dice, no, no, Lieto, ti posso ringraziare in molti modi, ma quello non è uno dei modi compresi. Sono un uomo sposato. Giocare a scacchi, va bene. Ti piace giocare a scacchi? Sì, in università giochiamo a scacchi. They do. Se vuoi, possiamo fare qualche partita amichevole, ma volentieri. Allora dopo ci vediamo. Ok. Vabbè, comunque adesso se non ti dispiace prima di tornare mi fermerei dal giornalaio così prendo il giornale per tutti. Sì, va bene. Non credo che il giornale costi più di 6 monete. No, no, no, il giornale, si paga con gli spiccioli, cioè con le monete di metallo vecchio. Con una moneta puoi fare o tipo l'abbonamento settimanale, oppure compri un giornale e qualcos'altro. E sai cosa? Facciamo l'abbonamento settimanale. E tanto non ho altro da comprare e non mi dà il resto, tanto vale. Anche in questo mondo schiavi del capitalismo, porca puttana, non è possibile. Ah, in una maniera... Vabbè, che non le monete dagli dèi, io. Vero, cioè, più di così... Più di così non potevano esserlo, però... Fantastico. Il giornalaio, non mi ricordo che personalità gli avevo dato l'altra volta, era proprio un NPC generico. Io me la ricordo, ma non saprei imitarla. Sì, perfetto. E... Certo, mi fa molto piacere avere dei nuovi... Non era questo? No, dei era nuovi... Questo. Questo è suo figlio. No, era il Ligure la volta scorsa. È vero. Bello, bello. Ah, accoglienza tipica Ligure. No, bravo, bravo, complimenti. Bella questa idea di fare l'abbonamentino. E... Mi dai anche un nome o lo lasciamo così al primo stronzo che viene a prenderlo? E... Adone Utred. Come si scrive? Come vuole lei. Sì, certo. Toh, tieni il giornale di oggi. Grazie, grazie mille, molto gentile. Buona giornata. A lui sì che mi stava simpatico, dice Lief. Leggo, do un'occhiata alla prima pagina, tanto il giornale tu ci dici sempre alla prima pagina. Hai scelto lo stesso libro che stava, lo stesso giornale che sta collezionando... Il contatto, e quindi ha una rubrica, sì, no, no, cioè dal giorno di oggi, ma lo stesso, ok, ha una rubrica che dice come si sta evolvendo la piaga, il bollettino dice che una città nel regno che era stata colpita dalla piaga, realisticamente ha risolto il problema grazie al fatto che tutti i suoi abitanti sono morti, quindi non si può più diffondere. È un piccolo villaggio, cioè una cinquantina. Soluzione anche quella. La soluzione anche quella, cioè non sono morti tutti, quindi focolaio finito. Sono stati interrotti i contatti con Oclica, non si sa nulla della situazione di Oclica di oggi. Le città intorno stanno combattendo contro i mostri e contro la malattia, e i dati fanno pensare che nonostante sia stata arginata all'impero, l'impero è prossimo all'annichilimento completo. E ok, vedi che man mano che legge il giornale, Giulietta, vedi che il colore di Adone proprio viene proprio sparito. Diventa bianco. Diventa bianco, già più di quanto non lo sia. Quindi proprio che... il colore da lui sparisce. In aggiunta ti posso dire che le linee ferroviarie sono intasatissime, perché tutti stanno prendendo il treno per andare via, chi può, e lo stesso sta accadendo alle stalle, cioè è diffusissimo nel mondo avere il cavallo se devi andare tu da solo da punto A a punto B, non connesso dai treni, e gli stallieri hanno venduto ogni cavallo, e quelli che non hanno venduto sono stati rubati. Muoversi a cavallo non è legalissimo in questa situazione, perché è comunque zona di quarantena. Se tu passi per una foresta rischi di ignorare la quarantena. Quindi è anche molto illegale quello che sta succedendo, ed è il motivo per cui la piaga non è completamente arginata, ovvero qualcuno che è fuggito ma è stato infettato può infettare gli altri passando il confine tramite una palude o una foresta. Cioè, il bollettino spiega nel dettaglio sta cosa qua, quali sono le zone a rischio, eccetera eccetera. Domanda, non c'è niente di specifico su Falchena, vero? No. Perfetto. Le città menzionate sono d'altra parte. Sì, tutto. Okay. E allora... E menzione della Zenith? La Zenith no, non viene menzionata perché essendo una struttura rientra nel discorso di Oclica. Se intendi dire tutte le università, il bollettino è fatto da una Zenith. Ora dovrei cercare quale. Ok, no, la Zenith High, essendo parte di Oclica, danno per scontato che siano tutti o morti o fuggiti dalla città. Ok. Beh, io comunque ripiego un attimo il giornale, insomma, era qua spagliato, dico, comunque con un po' di gravità, dai, torniamo dagli altri. E intanto nella tasca muovo un attimo il mio ditino di ferro. Cling clang. Le altre notizie, se le vuoi leggere velocemente, sono cronaca generica degli ultimi eventi, cosa dicono i grandi esponenti, gli re e gli imperatori sulla situazione. Poi ci sono sempre le notizie tipo come sta andando il raccolto, come sta andando il clima, cose del genere. Cioè, veramente super... Io avrei domande specifiche da farti, però se tipo non mi menzioni certe notizie... Io sì, esatto, non ci sono. Esattamente. Perfetto. Allora... Ok, rientrate poi con calma, giusto? Sì. Perfetto. Passiamo da dentro. Avete passato comunque mezz'ora 40 minuti. Io in scena ho il sacerdote, il vescovo che sta pulendo ancora la statua e i dintorni. Nibel, Ora e Mif. Mif, vedete che dopo un po' di silenzio si gira verso Nibel. E gli fa, ti propongo una cosa. Se vuoi, possiamo farla. Dipende dalla cosa. Tira fuori un manapenny di Apeira e ti fa, se ti chiedessi di recitare una certa cosa, lo faresti per attivare questo manapenny? Potrei, ma... Cosa ti serve? Chiedimi direttamente. Stiamo cercando. Io ed Ora stiamo cercando di fare dei piccoli esperimenti su come questi manapenny si comportino in maniera specifica, relazionati alla propria divinità di riferimento o entità che sia. Io so per certo che la formula da utilizzare con questo sia quella che ti sto per dire. Magari non è in relazione con me, ma tu che hai evidentemente delle esperienze fungine, magari boh, c'è qualcosa in comune, manca qualcosa, manca un pezzo per attivarla. Se può servire a, diciamo, al nostro fine, posso darvi una mano, sì, non c'è problema. Sì, sì. A proposito di queste cose qua, il colore di questi funghi è simile ad alcuni manapenny, però quali nello specifico? Allora, esistono solo due colori di manapenny. Il 99% sono di una tonalità di blu che ci assomiglia effettivamente. Ovviamente i tuoi funghi sono blu nella parte che è illuminata, che è tipo il bordo del capo, del cappello. Mentre i manapenny dell'altro colore sono di un blu molto più scuro. Ok. Posso provare, sì. Non c'è problema. Allora, ci rischi di far danni? Mitz cerca di ricordarsi cosa è successo con Patroclus e fa... Mediamente penso che dipenda un po' dalla situazione, forse. Non lo so. Ti porge male la penna. Lo prendo. Guardandolo vedi che sopra ha un fungo disegnato che è l'effigie di Apeira, cioè il simbolo dei manapenny della tua città. Quindi diciamo che tutti i manapenny che hai hanno quell'effigie lì, realisticamente. Cioè può capitare che ce ne sia uno di un'altra città, ma il 90% sono così. Sì, sì, sì. Ok. Descrivi... Quelli che io sono tutti presi in bulk. Esatto. Quindi sono tutti di Apeira. Esatto. Praticamente Mif ti dice questo. È nella tua lingua, ok? Dovrai dire questa formula, che è Incataton Meiton. Ma è come se si attivasse, se si spegnesse. Magari con te si può sprigionare. Non lo so. È un associamento che ho fatto così per istinto. Non so, magari se riesci a spaccarlo. Posso provare. Mi tolgo il guanto della mano destra. Sì. L'unico rimasto dei due, perché l'altro ce l'ha ancora ad ora. Sì. E prendo il mana penny. Vedi tra l'altro che in realtà la mano destra, le dita un pochino li tremano in maniera incondizionata, non è voluto. E provo a stringere il mana penny e a pronunciare la formula. Mi metto in un posto tipo dove non... cioè tipo non lo so dove c'era prima il vulcano, che già c'è un bordello lì da terra. Ok, datemi un secondo. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Voi l'avete visto come ha dato una foto su cosa, vero? No. Bene, su cosa? Telegram. Esatto. Ah, ok. Ah, ok. Ok, ci quasi siamo. Senti una strana forza attraversare il tuo corpo. I funghi lo vedono più gli altri che te, perché tu avendocelo proprio addosso non ci fai così tanto caso, però un minimo te ne accorgi. Gli altri vedono che i funghi sono come irrorati di sangue blu. Ok, quindi prendono un sacco di colore, sono molto luminosi, molto forti. La voce gli esce quasi come se avesse un eco, ok, in modo molto innaturale, molto forte. Non voleva urlare, forse, però ha urlato di fatto. Il mana penny si alza in volo da solo, poco sopra la sua mano. Datemi un secondo. Dovrebbe partire. Adoro sta cosa. Il mana penny si spacca in un milione di frammenti. L'energia viene trasudata dal tuo braccio e come un miliardo di tentacoli di altre mani escono fuori dal delle ife, cioè delle radici di fungo dal tuo braccio, che cercano di aggrapparsi a qualunque cosa ci sia nella chiesa in quella direzione. Quindi si afferrano, aggrappano alle colonne, alle panche, al legno, a qualunque cosa. Questa cosa all'inizio erano una manciata di mani molto lunghe e poi diventa molto più grande di te, diventa colossale, gigantesco, e tu più degli altri noti delle cose. Gli altri sentono un suono indistinto, come uno strumento musicale a fiato o un'arpa molto loud, mentre tu senti distintamente, chiaramente, la voce di tua figlia che urla. Questa cosa dura un tempo che in realtà sono una manciata di secondi, ma per te sembra una settimana, è excruciating, è lunghissimo, è insopportabile. Non senti dolore fisico, è tutta una roba psicologica e sulla quale hai pressoché nessun controllo. E per un istante ti sembra che queste radici, queste cose che ci sono, formino, e questo lo vedono anche gli altri in misura minore, la sagoma, l'outline di una donna con lunghi capelli, eccetera, che è l'ultima cosa ad uscire, aggrappare una colonna e spaccarla. La situazione è strana, il vescovo è terrorizzato, sono tutti colpiti gli NPC quantomeno, e poi le radici iniziano a calmarsi, a seccarsi, e poi si ritirano dentro il tuo corpo, lasciando ovviamente tutti i danni sul posto. Okay. Cado a terra in ginocchio, con il braccio in avanti buttato a terra, il mana penny cade, se c'è ancora, cade a terra. Sono rimasto, è una polvere ora, sì, c'è una polvere azzurrina che appunto copre il palo del terreno. Allora sono a terra un po' con che mi tengo dal polso il braccio che trema un po'. Mif è, cioè, se prima era contenta effettivamente di vedere l'effetto che desiderava, che era questo alla fine, adesso è preoccupatissima per Nibel e letteralmente trascina Ora con sé, perché è una cazzo di dottoressa, pensa che Nibel stia male, infatti corre verso di te, si inginocchia e fa: stai bene? Inizia a vedere se magari sei ferito o qualcosa. Ora è... alzo la mano. Ora è ghiacciata, cioè non sa cosa fare. NPC moment. Niente, Mif è vicino a Nibel. Insomma, ti ha messo una mano sulla spalla e ti fa: Nibel, tutto ok? Nibel con la mano buona ti scaccia la mano sul momento. Sembra visibilmente agitato in questo momento, non sembra voler contatti né niente. Senti però che ha il fiato corto, sembra che ha l'asma in questo momento, sembra che stia facendo fatica a respirare. E, vedi proprio le gocce di sudore che cadono per terra, almeno quello che pensi che possa essere il sudore. E al momento è lì che con la mano, quella fottuta, sta quasi piantando le unghie sul pavimento e si è lasciato dei segni praticamente. Una parte dei funghi che hai sulla mano si sgretolano e si staccano quando lo fai molto forte. Cioè lo strato più esterno si sbriciola. Sì. Prego. Invasione di campo. E io vorrei avvicinarmi alla... Non ci sei. Ah, no, è vero, perché non sono siete ancora fuori. Se. È successo okay. Per prima cosa questa, hanno voluto fare. Niente, Mif non tocca più Nibel, però è anche vero che si gira verso Nora e gli dice, datti una svegliata, c'è bisogno di aiuto. Non credo di poter curare quello. Mif fa... acqua? Qualcosa? Quello lo posso fare. Si avvicina a Nibel, gli gira intorno come uno squalo intorno alla preda e ti sta fissando, sembra stia guardando oltre te e dice: so che sembra una battuta, ma credo tu abbia un'intossicazione da funghi. Nibel alza un attimo lo sguardo, cioè l'occhio buono che è iniettato di sangue. Nel senso, anche dentro, dopo questa cosa, riesco a percepire che hai delle alterazioni al respiro e al resto. Non so cosa sia successo, non ho la più pallida idea, ma non ti ha fatto bene. Non sarebbe una novità, so che avere... questo tipo di infezione all'interno è la norma. Sono io l'eccezione. Ok, penso di poter mitigare l'effetto dell'infezione. Non credo abbia niente a che fare con quello che hai sulla pelle, ma sicuramente ti posso aiutare a respirare meglio. Fai quello che devi fare. Spero ne sia valsa la pena. Beh, di sicuro abbiamo un'arma potente a disposizione. E lei tira fuori non è un breviario stavolta, è proprio una specie di libro di magie e cerca una teurgia particolare, ha un, non so come chiamarlo, non è un gessetto, è un affare che lascia il segno nero, gessetto nero, esiste, è una roba, carboncino. E con questo ti traccia dei simboli sul petto e sulla schiena. Non sembrano simboli alchemici per quelli voi trained in questo genere di stronzate. Sembrano più sigilli. Quando ha finito la cosa, appoggia il pollice e senti un tepore. Effettivamente riesci a sentire le vie respiratorie che si aprono, ma inizia a tossire. E se lo fai, se continui, alla fine vomiti e butti fuori delle cose che sembrano meduse. No, il mio latte con i cereali. Nere. Bellissimo. Quello non è normale. Dici? Sì, non è normale. Cioè, normalmente vengono fuori dei piccolissimi polipetti o dei fili, cose così grosse non è normale, no. Quanto tempo è che sei messo così? mi pulisco la bocca. Al momento non mi ricordo molto bene la... Sicuramente la, dopo la, quando, dopo la fondazione della, della centrale. Ora si avvicina a Mif e le sussurra: questo muore prima del tizio maledetto, lo sai? Bip, guarda, cioè si gira verso ora allarmata e fa: cosa? Sì, non, un essere umano non può vivere in queste condizioni, non ha più i polmoni. Non so cosa gli hai fatto, io... ma gli hai dato il colpo di grazia così. Non sapevo avrebbe avuto delle ripercussioni, onestamente non avrei mai fatto del male a Nibel. Dai, morirà da martire della scienza. Non mi sembra il caso di dire una cosa del genere. Beh, allora dovremmo trovare un modo per curarlo. Sì, beh, hai detto che sei una dottoressa, no? Esatto. Provalo. Ci sto lavorando. Per ora ho fatto un buco nel muro. Più velocemente. Le cose le posso fare o bene o velocemente, non entrambe. E dovrei farle tutte e due. The standout way. Mi... avrei dei commenti che mi terrò per me, per amore della nostra amicizia e del fatto che sembra avere un sacco di informazioni pericolose. Su queste frasi, su queste note, il vescovo ha preso uno straccio, sta pulendo dove avete sbriciolato la cosa e sta cercando di capire come riparare la colonna portante che avete digrignato. Pregge però la chiesa, quindi lascia fare, un signor architetto. Su questa cosa qua rientrano Adone e Lieto. Entrando nella chiesa, la prima cosa che vi colpisce è il fatto che ci siano diversi buchi hand-shaped sulla colonna. Ah, state ristrutturando? Cosa diamine avete combinato? E guardo ovviamente i suoi compari. Vedi le meduse nere vomitate da... Sì, ci sono delle robe per te. Allora, ho detto meduse perché sono dei globi con dei tentacoli. Globi neri. Esatto. Vabbè. Ok, cosa diamine avete combinato? Gli esperimenti che dovevo fare. Uno è andato a buon fine, a quanto pare. Già, già. Pensa a quello che è andato male. Già. Pensa a quello che andrà. Il tuo è andato male. Shape nella colonna, quindi come? I buchi nella colonna sembrano una mano. Perché sembrano una mano? Perché ha creato tante mani e indica Nibel. Io a quel punto mi avvicino verso Nibel e faccio: Nibel, stai bene? E non toccarlo. E cioè mi sto prontamente fa anche te, però siete entrambi con me. Nibel mi risponde, cioè domanda genuina, da segno di esserci o no? Vedi che apre, cerca di aprire la bocca ma fa fatica a tirare fuori le parole in questo momento, però dopo ti aspetti un po', ti dice: non particolarmente, ho passato momenti migliori. Adone guarda Mif e Ore dice: questo è l'esperimento andato bene? Aspettare che tornassimo era proprio fuori dalla discussione. Aspettare che un esperto di magia fosse qua ad assicurarsi che andasse tutto bene mi faceva schifo come non idea. Non penso tu abbia capito il tipo di magia che viene utilizzata qui. Non potresti avere controllo su una cosa di quella portata. Certamente, ma al tempo stesso provare a farlo intanto in chiesa mi sembra l'idea peggiore. Fuori non vuoi che venga vista una cosa del genere. Però io farlo per strada, forse? Per strada con i passanti? Per strada con i passanti no, ma almeno trovare un luogo all'aperto, nascosto, quello che poteva fare. Sì, forse. E soprattutto questo... Possiamo usare i medikit? lo desidero. Ora sta non facendo segno. No? Ho usato medikit in questi anni, non hanno aiutato niente per questa infezione. Non mi aspetto che lo facciano ora. Le infezioni micotiche sono uno dei casi in cui i medikit sono inefficaci. Ah, quindi parliamo sempre di queste infezioni, di queste muffe? Sì. La moneta di Ateira come simbolo, e ne tira pure un'altra del fungo. Ho pensato che la relazione tra questa moneta e Nibel fosse più potente di quella che ho io con la moneta di Ateira, ed effettivamente ha confermato. Ci vuole un tipo di legame che non capisco. Significa che ora ha qualche tipo di legame con Yeros. Ah? Non mi sembra di averne. Hai pregato Yelos nella tua vita? Stamattina. Stamattina per la prima volta o stamattina? Stamattina per la prima volta. Ho preso dal vescovo i breviari per vedere la liturgia e l'ho seguita passo passo. Potrei avere qualche idea al riguardo e mi piacerebbe anche condurre qualche altro esperimento, ma vedendo gli effetti Nibel meglio di no. Perché non vuoi? Perché non voglio che qualcun altro si faccia del male, Mippo. La conoscenza non è per me una scusa abbastanza per fare del male. So che tu pensi altro riguardo. Chiaramente abbiamo delle divergenze. Il vescovo poggia lo straccio che ormai è marcio, cioè non c'è più niente, e dice: prima avete menzionato Maiklon, se ben ricordo. Sì. È la divinità della vita sotterranea, dei funghi e di molto altro. La sua liturgia è abbastanza complessa e mescola il rito di Keldo, suo padre, con alcuni riti diciamo pagani, per dire, di religioni molto più antiche. E domanda, tu quanto sai effettivamente delle divinità? È quello che si studia per teologia, quindi non tantissimo. Conosco meglio Yelos perché mi sono informato, avendo appunto una certa fascinazione e avendo ereditato la sua chiesa. Sulle altre divinità potrei indicarvi qualcuno che è interessato, però si tratta quasi sempre di gente che fa parte dell'Accademia. Beh, andremo a conoscere qualcuno dell'Accademia, magari ci possono aiutare. Però effettivamente sì, Manapenny si gira verso Ora e fa: che Manapenny hai utilizzato tu per gli Elos? Di Prozurk. E gli Elos sappiamo che l'hanno preso e l'hanno portato lì. Ah? E il vescovo raccontava che ha visto gli Elos nelle vicinanze di un luogo dove poi è stata costruita una centrale, la centrale di Prozurk. No, l'avevo visto nella periferia di Apeira, e dicevo che pochi giorni dopo è stata aperta una centrale a Prozurk. Tipo 3 giorni dopo è stata inaugurata. Quindi possiamo ipotizzare che Yelos sia preso quello in Maiklon, quindi ad Apeira. Cioè, hold on, nel senso, seguitemi. Se questi Manapenny reagiscono alla divinità o entità a cui sono legati, la centrale che li produce è la conferma che ci siano queste cose dentro. Queste persone. Sia l'avatar di quel dio all'interno di quella centrale? O il dio stesso? Chi lo sa? Perché tu non sei riuscita appunto? Io vengo da Thrice. Scusa una domanda, Vianic, ma noi, dove io e Luna di Miele ero fuori dall'impero? No. Eri in una delle regioni sudorientali dell'impero. Ok, sì. Posso confermare la tua teoria. Quindi sì, di conseguenza forse ci vuole una persona che in qualche modo sia legata o abbia qualcosa in comune con quello che è successo. Ho pensato a Nibel perché non solo ha la sua infezione, ma perché è anche del posto. È di qui, sono sicura che... E poi tira fuori una moneta di Price e guarda l'ascia di penne. Io non so a chi sia associato questo, però magari se si trova la formula potrebbe funzionare. Che lo so. Io, Bianice, c'ho ancora monete di Falchena? Sì. Tutte le tue monete sono di Falchena, cioè quasi tutte. Sì, il loro simbolo è una corona piumata. E a questo punto Adone tira fuori la moneta e dice: io avrei appunto la formula per utilizzare la moneta di Falchena. A chi è associata? A Pelstaia. Cioè Miffa? La divinità, certo, come no, dei venti e della libertà, ma non sono troppo informato. Quindi a Falchena ce n'è un altro. Sì, potremmo dire di sì. In quanti devono essere per soddisfare tutte le centrali? Beh, le divinità... Io so per dire una cosa, però non so se Adone la sa. Ormai... Vabbè, non la... No, non la dico. E allora dice: non lo so, inoltre non siamo ancora totalmente sicuri che siano solo Avatar e non anche altre entità. Probabilmente sono anche altre entità, infatti, da quanto mi è stato riferito. Quindi però è anche vero che bisogna capire se anche per le altre entità valgono certi detti, non lo so. Vediamo. Stiamo rattoppando questa storia pezzo per pezzo. Ogni cosa che scopriamo è importante, ma ovviamente non riusciamo ancora a creare l'intera immagine. Beh, dobbiamo appuntare tutto quello che sappiamo. Il problema è che se gli effetti collaterali sono questi e indica Nibel, bisogna che, insomma, siamo pronti, se si voglia, al sacrificio. Sì, è una cosa da considerare, credo. Ora alza la mano e dice: interessante la teoria, però ho un dubbio. Sapete che le effigie sono scelte dalla zecca? Certo. E che cambiano. Questo dici, e le tiro una moneta di quelle... Beh, di occhia nuove. A parte quelle, ma in generale, non so se hai delle monete di Oclica degli anni 80, hanno dei simboli leggermente diversi da quelli successive, e ancora prima hanno fatto 3 o 4 o 5 cambi. Io credo che questi cambi vengano dati da quando il recipiente cambia. Domanda genuina, Pjanic. A Falchena, da quanto è che non si cambia simbolo? Lo saprei dire? Te la dico in un altro modo. È una questione numismatica, nel senso che il simbolo effettivo è sempre lo stesso. Ad Oclica l'hanno cambiato una volta sola ed è l'unica città in cui l'hanno cambiato. Vabbè, l'hanno cambiato 4 volte ad Oclica. Uno nel passato, 2 nel presente, cioè negli ultimi 20 giorni. Però quello di cui sta parlando ora è che, a parte il simbolo grosso, cioè il concetto, cambia il modo in cui viene realizzato. Quindi... Non lo so, credo che forse non cambia tanto, forse più che sia importante il simbolo come viene realizzato, è anche proprio l'intento. Non lo so, pensavo stesse implicando che fosse una sorta di sigillo che funziona. In realtà credo che sia solo un disegnino. Non lo so, non so se implicare che sia un sigillo sia la cosa giusta, ma dire che è solo un disegnino mi sembra sbagliato. Sì, anche perché se fosse soltanto un disegnino si sarebbe attivato a prescindere dalla persona, da ciò che infondi. Non sto dicendo che quello che contiene sia uguale in tutti, sto dicendo che la scelta del disegnino è politica. Hai tirato fuori un manapenny di Trice, giusto? Sì. Dove l'hai preso? Trice? Da Pranziger. Quindi sopra c'ha un Labris, un'ascia BPN, giusto? Sì, esatto, e cioè glielo fa vedere. Questa è l'ascia di Scata. Ok. È un antico simbolo Scati. Si usa ancora... Delle persone che io non ritengo molto positive per la razza umana lo utilizzano come un simbolo di superiorità razziale degli Scati rispetto alle altre razze. Ma a parte questo dettaglio, anticamente era il simbolo della dea del fuoco che protegge gli Scati. E... ne esistono varie versioni, cioè quello che hai lì credo sia recente. Nelle versioni vecchie la forma dell'ascia, le punte, eccetera, sono tutte diverse. E in genere viene fatto quando cambiano le strumentazioni della zecca. Ok. Da Peira so se sono cambiati le monete. Allora, questa cosa che ti ha detto dei dettagli delle monete, non hai idea di cosa stia parlando, più che altro forse non ci hai mai fatto caso, è una roba a cui non si pensa. C'è sempre stato un fungo disegnato sopra, quello sempre, da quando ho aperto ad oggi. Ok. Però non è mai cambiato il disegno del fungo? No, hai delle monete con te. Se le guardi, noti che alcune monete sono più vecchie, le vedi perché sono rovinate. Cioè, sono leggerissimamente danneggiate in corrispondenza ai bordi. Ed effettivamente riesce a vedere che il modo in cui viene fatto il fungo non è lo stesso identico. Cioè, su Paint ve lo potrei fare, però l'idea è che... Sì, vabbè, è come se cambiasse il font, tipo. Esatto, esattamente. Quante varianti vedo? Perché, cioè, beh, viene da fare collegamento col cambio di direttore della... Perché ci sono due varianti, perché ci sono stati due direttori della centrale. Ok, hai poche monete per fare questa stima, ma già in quelle poche che hai vedi più di due effigie. Ok. Ne vedi almeno tre. Ce n'è uno solo, danneggiato, che ha un simbolo che si vede senza farci caso, che è diverso dagli altri. Sì. Io prendo le monete, le guardo nella mano... Le porgo agli altri, dico, viene un po' di aprire se volete dare un'occhiata. Mentre questa Sikas Music, io prendo una moneta e poi l'altra. Anche su quelle di Falchena noti alcuni dettagli leggermente diversi, tipo il cerchio che forma la corona, in alcuni è un'ellisse, in alcuni è un po' più schiacciato, cose del genere. Però sono proprio... devi farci caso per vederlo. Non so che tipo di correlazione. Nemmeno io posso... magari posso provare a pensare a qualcosa prima di andare a fare qualche ricerca. Magari. La frase per attivare la moneta che ha usato Oss, da dove veniva? Da Peira. No, la frase di che sapeva Mif. Ok, non l'ha detto. Esatto. Ok, no, pensavo di... chiedeva Ika. Sì, okay. esatto, era off character. Vuoi chiederlo in character? A sto punto, sì. Domo. Domo. Non so neanche se stand out. Come? Cioè, lo sa che lui che ho pronunciato una formula per... Se gli avete raccontato cosa è successo, sì. Non mi ricordo se gliel'avete raccontato. Io ero catatonico, non penso di averlo fatto, però se gli altri gliel'han detto... Decidete voi. Cioè voi, Mif... Decidi Sara, perché Adone era con te. Cioè nel caso Nibel non avrebbe voluto di nasconderlo. Sì, sì, sì. Cioè, quando siete entrati, mi sembra che sia stato detto che c'è stato appunto questo esperimento e che ho visto. Cioè, che c'è stata una redazione, non ho detto la frase, cioè non ho detto la cosa, ho detto che c'è un certo tipo di funzionamento. Se poi Dieto me lo vuole chiedere, quello è un altro discorso. Sì, Dieto è molto interessato al genere di esperimento che stavate facendo qua. Vorrebbe sapere di più. Mitch ti guarda e fa... Diversi anni fa sono andata in Gula e ho visto con i miei stessi occhi l'ex rettore della centrale di Apeira pronunciare questa frase che si chiama Enkathaton Neiton. Neiton è chiaramente una divinità, e appunto queste enormi mani letteralmente uscire dal suo, uscire da lui e andare contro questa cosa della Gulag, non stavo a spiegare. Ho magari pensato che ci fosse una correlazione con Nibel e l'ho messa in atto. Tutto qui. Quindi l'effetto era lo stesso? L'effetto era lo stesso. E quindi mi stai dicendo che questa cosa è controllabile? Eh sì. È morto però quell'altro. Forse non è un caso di utilizzare una magia così mortale, no? Io penso sia dato dalla magia, e poi cioè, mi viene in mente solo che ti ricordo. Non penso sia dato. Non è importante, l'importante è che mi hai dato uno strumento utile. È molto potente, come anche quello che ho cercato di fare ora. Non so come spiegarlo, di alto livello e di impatto. Di conseguenza, secondo me, trovare qualche altra magia in più in momenti critici ci può dare una mano, credo dire. Ma sono risorse da centellinare. Sì, da usare con parsimonia, infatti ho detto in momenti critici. Adone non è completamente convinto di questa cosa, però giustamente vedi anche oggettivamente l'utilità, non è scelto. Ma se il punto è che usiamo i manapenny per farle, scassiniamo una banca. Ora. Sì, è ora che parla. Uno, evitiamo di... Cosa? È ora che parla. Sì, evitiamo di attirarci attenzione già qui del necessario. Già adesso sono figlio del rasoio. Secondo, non mi sembra che Nibel stia bene, quindi finché non riusciamo a capire come controllarla, da cosa dipende queste variazioni, direi che evitiamo di provarle a caso. E effettivamente trovare qualche manapenny in più non sarebbe male. E di qualche tipo. Guarda, ora, alzo sopracciglio, out, e mana unit. You had my interest. Now you have my attention. Cos'è che ha detto lì? Hai tirato fuori il mana unit. Dio, ma è una di... Ce l'ha sempre avuto quella roba lì? No, il mana unit non ce l'ho più, mi pare. Vero? Ah, sì, okay. Era tra i possedimenti di Zanzan. Sì, no, però il suggerimento è stato... Sì, un mana penny ha fatto questo. Che cosa succede se facciamo quello? No, le mana unit non si utilizzano. Ho già visto gli effetti. Non utilizziamo quelle magie con la mana unit. Occhiolino ora. No. Adone viene lì e prende quelle spalle, ascoltami, non utilizzeremo quelle magie con la mano. Ho già visto cosa succede. Prendi i sonniferi per dormire, c'è problema, stanotte. Quindi, fatemi capire, sia i mana penny che le mana unit sono prodotte dalle centrali? Sì. Quindi la centrale è la fonte originaria della magia che c'è all'interno di questi oggetti? Yes. Quindi vuol dire che si può utilizzare una centrale per lanciare uno di questi incantesimi. Non ci avevo pensato. Stringo la mano, tipo quella buona. Scusatemi, È una bomba atomica. Perché state cercando di creare armi di distruzione di massa? Mi chiede proprio Adone. Ma non state leggendo una bomba atomica? Possiamo far saltare una cosa che ci impedisce di curare la fame nel mondo? Far terminare il guerre. No, letteralmente abbiamo appurato ieri sera che fare esplodere centrali non è l'idea buona, considerando quello che sta succedendo dopo. Ma perché volete farne esplodere una? Sto dicendo che vogliamo farla esplodere, sto dicendo che c'è l'eventualità. Sì, su questo sono d'accordo. Il tuo ragionamento fila perfettamente. Una centrale potrebbe benissimo essere utilizzata come catalizzatore. Ma credo anche che se nessuno l'ha mai fatto fino ad adesso, perché il vendicatore si corregge e dice: spero che le persone abbastanza in alto abbiano capito che forse è meglio evitare. Siamo entrambi dell'impero, no? Sì. Hai mai parlato con un magister? Uno a caso, uno qualunque. Allora, non dico che nessuno abbia considerato l'idea di utilizzarle. Dico solo che per il momento nessuno l'ha fatto, credo per... Non dico delle motivazioni buone, per la bontà del cuore. L'impero sta conquistando territorio oltreoceano. Se l'impero non l'ha ancora utilizzato è perché non è ancora arrivato il momento di utilizzarlo. Non sappiamo cosa fanno oltreoceano. L'impero potrebbe tranquillamente averlo utilizzato, solo che noi non lo sappiamo ancora. Tre settimane fa hanno conquistato una regione dei territori berber. Hai presente i territori berber? Quelli dove la gente non va da 10.000 anni, dove la gente alla Solvere non va da 10.000 anni perché ci sono i mostri, le popolazioni locali sono non si possono affrontare in combattimento. Immaginati degli incantesimi di questa scala utilizzati contro le persone a convenienza. Eventuali mutazioni di animali. Temo curare la pandemia in un colpo solo. Lieto, per quanto sia allettante, non penso che sia questa la soluzione. Ripeto, fino a ieri eravamo d'accordo su non distruggere le centrali a caso. Io rimango di quell'idea. Non se la pandemia stessa fosse... Grave. Se la pandemia stessa fosse la conseguenza di uno di questi incantesimi. Potrebbe. Nel senso... Da quello che sappiamo, la pandemia... Epidemia. Epidemia. È un effetto collaterale delle centrali che in qualche maniera degli eventi hanno... aumentato di portata. Sì. Quindi I guess se la centrale dà, la centrale toglie, la centrale sistema. Ora guarda in telecamera e dice: se solo potessimo parlare con qualcuno che sa qualcosa di più su questo avvenimento. Conosci qualcuno? Stai parlando? Purtroppo no. Cos'è che ha detto dietro? Le ho chiesto se conosce qualcuno che ne sa di più. Che bello. Certo! Che bello! Adone dice... Adone dice... Conosco un paio di persone con cui potremmo benissimo discutere di questa cosa, ma sono tutte persone A, lontane, B, irraggiungibili. Raggiungibili? Sì. No, lontane sicuramente. Sai il modo di rompere in una prigione, Lieto? Beh, forse sì. Gli incantesimi del genere, c'è veramente bisogno? No, anche senza quel genere di incantesimi. C'è qualche conoscenza nel mio passato che ci aiuta a fare male la gente di prigione. Hai a che fare con la corona nera, Lieto? O l'avevo già curata? Si guarda con la punta delle scarpe. No? Dovrei esserne sorpreso, ma mi spiace, in cuor mio non ho la forza di esserne in questo momento. Va bene, fatevi mandare questa lettera. No, fermo. Non mandare nessuna lettera. Va bene, ma guarda che... Ok, no, non avevo un obiettivo, però comunque... Dobbiamo fare le cose concrete. Onde evitare di mandare... Ma ti sto aspettando. Prima di tutto, tira fuori il ditino e fa... Dovremmo trovare una risoluzione a questo. E con risoluzione dico, nell'eventualità in cui non troviamo una cura, trovare il modo di farmi morire senza causare problemi ad altre persone. Vabbè, quello non è un problema, ti sotteriamo, è fatto, non ti preoccupare. Non sono sicuro basterebbe. Non lo dico con cattiveria. Non sono sicuro basterebbe una cosa del genere. Ho pensato che forse... L'epidemia non fa quello. E indica il dito. Ti appesantisce le ossa, te le fa di bronzo, ma non spingono escrescenza. Cioè, mi hai pensato, va bene. Ora alza un sopracciglio. Dicevo, dopo ciò, dobbiamo... A dove sta ignorando? Ignora completamente il mio. Va avanti col discorso. Come al solito. Sì, sì, sì. Dopodiché, tu Leto non credo, ma io rimango ricercato, quindi farmi vedere troppo in giro, comunque tirare troppo attenzione su di noi non è una buona idea. Terzo, le scoperte che stiamo facendo non è ideale sbatterle ai quattro venti, per quanto che non mi sia riparso. È qualcosa da dirmi, no. E si dire. Nel senso, tutto quello che stai dicendo è sensato, logico e ha uno scopo, ma dobbiamo fare le cose con un piano, capire cosa vogliamo fare. Probabilmente già parlare con il contatto di Mip, con cui tu dietro ieri hai parlato, comunque parlare con questo contatto mi sembra un punto di partenza, e dopodiché capire cosa fare. Dopodiché non solo molte vite rischiano per le nostre azioni, ma anche le nostre stesse vite. Credo che tutti ci teniamo fino a un certo punto della nostra vita. Abbiamo persone che amiamo? Sì. Sentite bussare al portone della chiesa. Che cazzo è che bussano? Padre, portone della chiesa. Padre, apre il portone. Vado. Avete interrotto i vostri discorsi, vi state chiarendo. Nascondi la cosa. Ah beh, si mette la mano in tasca, sì. Vedete il vescovo che apre il portone in modo a 30 gradi, in modo da poter vedere fuori, ma che da fuori non vedono dentro, e sentite un'esplosione, uno scoppio, un proiettile che buca la spalla, messo così, no. La spalla sinistra al prete, che cade a terra. Ed entrano dentro la chiesa, armati fino ai denti, 6 uomini vestiti di nero. La sessione la chiudiamo qua. Queste sono le conseguenze delle vostre azioni. Se ci vestono di nero, strane, però io li posso